Beh, quindi li hai, sei riuscito a metterli a posto quelli? Già, va bene, infatti io ero avvantaggiato, te l'ho detto, ne avevo un altro a quest'ora, avevo a casa, quindi ha suonato, mi sono dovuto allontanare. No, non ho sentito nessuno io. E vabbè, sono quelli peggio di te, tu già va bene così. Cos'è viva? E io, cos'hai detto? Scusa che c'è mia moglie, mi sta mattando il cervello, dimmi. Tu non ci credi, quando ti dico che qua è un altro mondo. Qua si sente il fruscio di tutto, del vento e anche di quelli che fanno lontano. Lascia perdere, fai serio, lì non ti fanno mettere manco l'antenna alla parabola, se tu controlli non c'è manco una parabola, è un condominio di merda. Cosa pensi? Non ci avevo pensato, ma è un condominio di merda, ce n'è una lì, libera, che tra l'altro è all'asta pure, ma non mi permetterò mai di metterci le mani, assolutamente. Io la mia scelta l'ho fatta. Non te ne fanno mettere, anche se Sandro ha avuto lo stesso problema, il villetto a schiera così, non ti fanno mettere niente, per l'estetica, ma ti pare io metto le direttive lì, la verticale lì, una buffonellisi, ma non è tanto meglio il casino che gli hanno fatto. E vabbè, l'ha vinta lui, Fendi by Vatisio, infatti, io la vengo su antenna, non te ti è stata davvero. Spero che duri così, se no mi gaggetto in testa, io non ne ho antenne così da mettere. Un milione di spazi, ho capito, e qua può darsi anche che me ne penta, non so, però qua io ho spazio a volontà, perché ho 50 metri di terrazzo per 30 e nessuno mi può dire niente perché è roba mia, capito? Quindi con l'aggravante che è, insomma, 50 metri di altezza, tutto libero, capito? Cioè come posizione non ce n'è per nessuno, però ho altre esigenze, quindi deciso così, o la sera domani me ne penta pure, non lo so. Indietro di un'ora, eh sì, vabbè, già me lo ricordo la mia voce. È ancora dormito. Tu sì che mi camminetti. Cos'hai detto, tu sì che? Mi camminetti. Sì. Ho letto che va così. Che noia, che barba, che barba, che noia. Però datemi un attimino che io intanto preparo mangiare al cane, eh. Già sono qua in ascolto anche là, ok? Ma fai un comodo qua. Guarda che c'è la friggitrice doppia, Marco, 39 euro. E io fai, non c'è problema. Hai trovato il cartano? Ehi, quella roba lì c'è, poi in fondo c'è, se guardi bene c'è altra roba. La friggitrice c'è altra roba buona. Guarda, ce l'ho anch'io quello lì, quel catalogo lì, c'è il disegno di Halloween, c'è, che l'ho visto anch'io, ce l'ho anch'io quel catalogo. Ci presentiamo con la parrucca e ci facciamo dare i soldi. Uno, capito, all'abitazione ce ne facciamo 50, ma vuol dire 50 euro per uno. Sono rientrato? E Iacra? Lo stai regalando soldi? No, volevo andare a travestirsi Marco. Beh, Halloween. E noi torniamo di casa in casa a recuperare un appartamento. Siamo privati di dolcetti. Aspetta un attimo, farò una chiamata. Lo so, non dirà a me. Quando c'è la bomba bella di Naldo, mi soddisfa se è quello. Invece quello di usciamo uno più uno gratis. Però non ce l'hai roba del genere, è tutta roba da mangiare. Ma quella friggitrice va bene, ha voglia, ci puoi mettere un pezzo di pollo intero di quella grande. È bello per quello, oppure puoi fare due cose diverse, da una parte ci metti le fettine e dall'altra ci metti le patatine. Qui ci vogliono almeno 2 litri d'olio, per dire, ma se vieni due persone ti va bene anche quella 19, adesso quando magari la rimetteranno te la prendi. Quando hai voglia di fare le patatine fritte, non fa altro che mettercela dentro, in 3-4 minuti sono pronte. La potete usare la pentola, capito? Che è molto meglio. A me non usi il gas, consuma anche poco, consuma. E quella induzione è bella. Almeno quando posso usare il fornello elettrico, usi quella. Ci metti la pentola sopra e scalda. Ah, quelle sì. Ma ci sono le versioni standard, quelle ricaricabili. Se mi sbaglio devo visteli. Ma salute minca. Ma quella è canna sofferta, eh. Ma ti chiedo un canna però su me. Quella è canna, eh. Marco, sta cercando Tattalino. Marco, ti sta cercando Natalino. Natalino. Ui. Mica è qua Marco, è macchina. Ehi, già lo so che è ma magari non mi sente. Lo so che sei con l'antenna piccola, se no non uscivi così. Sei piccolino piccolino. E dimmi veloce, che è pittina? A vedere se eri di là. Ok, va bene. Va bene. Cosa devi provare? Che sono sul canale 7 io. Vabbè. Non devo provare nulla. Questa vuole di provare. Ah, ma perché ce la c'ero sul 7 io. Il grande naturalmente. Poi gli altri piccoli ce li ho da tavolino. Messi a posto, Telia? Sì, signore, tutti e due. E almeno quelli possono servire, capito? E quelli servono, sì. A voi, eh. Anche perché sono più sicuri a portare a passeggio quelli, capito? Invece gli altri hanno il display e danno più dell'occhio, capito? Invece quelli senza display sono molto più comodi. Quando ti chiedono qualche cosa, te lo può colarirti. Esatto, è più discreto. Poi adesso vediamo un po' di procurarne che costano di meno. Deve chiedere cosa quello là. Avrei della voglia presi a Sassari, quindi va direttamente lì, con la partita IVA e li ritira. Con la partita IVA? Perché qua ci vuole la partita IVA per ritirare? All'ingrosso sì. Ah, all'ingrosso. E cosa vende il WHF all'ingrosso? Ok, c'è questi a Sassarini. C'è un negozio un bel grosso che fornisce questi negozietti, non lo sapevi. E già per me da attaccato alla scuola. No, non sono mai andati. Vabbè, non me ne servono di questi giocattoli qui. E basta quelli che ho. Beh, Natalino, a posto? Eia. Sempre a 5 watt? Sì, sì. Sempre come l'ho messo ieri. Lascia stare così. Poi magari tra qualche giorno, qualche settimana, ne vai altri due watti e vediamo un po'. Dove sei, Marco? Stai attento quando vai in viale Trento, non ti fermare lì in quel bar, se no passa fuori strada e ti cattigheggia. Certo, l'ho letto, quelle mattine io ho un'occhiata al giornale. Un bravo ragazzi, 19 anni fa una macchina del genere. Boh. Accelerato, l'hai fuggita di mano, fuori strada, non le bucce di gioco, già saprò portare. Rettilinea, come viale Trento la folla, o stava correndo? Hanno detto di no, che l'hanno visto sbandare. Sono negativi all'alcol test, ma adesso gli hanno fatto l'esame psicologico, quindi bisogna vedere se c'era qualche canna o se c'era qualche pera. Ma tu magari si è detto male, mi dite di strano, capito? Non costa nulla, no? Se si vale anche in macchina. Io ho 19 anni. Non ho idea, 19 anni, un capo di fumo. E lì c'era sempre un fumo. Una volta oramai incendiato, non si vive più a nulla. Io come sto? Aiuto Natalino, parla di qualcosa. Aspetta, adesso. Io. Baracchino in macchina. O lo metti buono, o se metti i giocattolini è così, Marco, no? Ma che il baracchino è così. Oh, eia. Vabbè, se c'è un divieto, i vigili fanno rispettare. Io penso che tagliano l'antenna, chissà. Cosa? Dolcetto scherzetto. Dolcetto le do un calcio in culo come l'anno scorso. Perché non ho suonato. Ha abbaiato Filippo e io penso che stiano ancora correndo, capito? Ancora la porta ha potuto aprire. Non spero. fai, non c'è problema. Io se anche uno fischiato basso, chi è ricorrente davanti? Ciao. Ma di molti siete? No, siamo qua. Siamo qua, non parlate. Io già ci sono. Ma ci sei? Ehi. Aspetta un attimo. Che noia, che barba, che noia. E chi ma è? Natalino Claudio Pomponio? Beh, è tornato, sì. Como? Gabba. Adesso sono a casa. Ah, finalmente. Poi che culo ho avuto. Ho trovato parcheggio in questa via al di fuori del divieto. Divieto per fare dei lavori. Però dove iniziare da oggi i lavori non hanno iniziato. E l'ho trovato al di fuori del divieto là, parcheggio, meno male. E Pomponio chiuso, Pomponio e Claudio chiuso. No, già sono qui. Natali, ma dovevi fare qualche prova in particolare o dirmi qualcosa in particolare? No, nulla. Non dovevo fare nulla. Ti ho chiamato di là, ma non c'è. Pensavo ce l'avevi appresso. Guarda, ieri ho portato con me le portatile, ma il baracchino no. Oggi ho portato il baracchino e il portatile no. E poi in realtà l'antennino piccolo per la macchina, per il baracchino, ce l'ho nel cofano. E ho messo di nuovo il baracchino fisso, quello che vale poco, quindi se non lo rubano pazienza. Così non faccio altro che aprire il cofano, piazzare l'antenna e sono già col baracchino, capito? È buono così, dai. Dovrei fare qualcosa avvisando il PMR Company, lasciare un portatile fisso, ma possibilmente che non me lo rubino. E quando serve lo uso. E infatti, attaccato all'antennino. Ecco, l'antenna ce l'ho già. E dietro, e se lì dietro, non faccio altro abitata in quell'attacco a portiera e basta, serve solo l'ubotabile di lusso. Qua stanno sempre briando per tubi che ci sono qua, andrebbero messi fuori secondo la regola, un altro lavoro. Ma qua stanno facendo lavori in dopo. Ma cosa credono? Che noi fabbrichiamo i soldi? Ce lo diciamo, fidatevela, queste soldi non abbiamo. Non puoi spremere sangue da una lampa. Poi anche se ce l'abbiamo, diciamo che non ne abbiamo. E qua gli piace fare tanti lavori qua, capito? Gli piace a chi ce li ha fare sempre il palazzo più bello. E allora pagatelo tu. Non ammala. E cosa? No, qua troppi lavori condominiali stanno facendo. Adesso vogliono mettere i tubi fuori, quello di sotto. Siccome hanno soldi, gli piace abbellire il palazzo, siccome noi soldi ne abbiamo contati, giusto per le spese e per mangiare. Allora, li fate voi i lavori, visto che vi piace tanto. E non hai capito allora. Sono dal 1985 che fa il condominio, sono uscito in un altro appartamento, lavoro in vari giardini, devono cimare gli alberi, devono fare non so che cosa, ci vogliono altri 10.000 euro, ma non tenanti. Non volevo riandarmi, è proprio per quello, Marco, il condominio è costoso, non c'è niente da fare, sto sempre cacciando soldi. Non ne arrivi né una, capito? Questo è dall'85 che non è stato fatto l'asfalto, adesso vogliono asfaltare i posti auto, quindi entrare con il bitume, riasfaltare tutto, rifare tutte le segnalettiche, rifare tutti i così, tracciare i parcheggi, usa meno puta a me, ma la Olimpiata d'Italia. A chi tu ti dai sudato, no, l'appassamento, però il suo conto non è mai ruduglio, non è mai finito di pagare. Ma è un casino, è molto grande il condominio, ho capito, quindi chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Sono gli alberi da cimare, sono due calipto che saranno 30 metri alti. Quando c'è vento devi vedere, ovviamente sono anche pericolosi. Quindi devono Cimarli, lì ci vogliono soldi, poi devono ripristinare i cancelletti della stradina, l'autostradina, capito? Poi vogliono Trovetto rifare l'asfalto, riassaltare tutto, ci sono delle buche per i bambini, ma cosa me la putta a me? Poi vogliono fare il giardino, fatto in Grecia, sì, sì. Sai cosa mi ricorda questa cosa? Il film Il Mostro con Benigni, no? Che nel suo condominio lui si lamentava che avevano messo questi nani da giardino, no? I sette nani, no? Fatti in gesso, colorati, no? Messi nel giardino, così. 1.800.000 lire. Ah, i sette nani fatti in gesso, colorati. 1.800.000 lire. E Benigni nel film era al contrario. E lui muro i nani e siamo a posto. Lascia perdere, no, un sacco di soldi ci vogliono condomini. Quando un condomino è così grande, sono sei scale qua a schiera, capito? È un bel grande. Quando è grande, sono quasi 200 posti alto, mi stai scherzando. È un bel grande, già l'hai visto. Quindi un sacco di lavoro, un sacco di cose, sempre cacciando soldi, cacciando soldi. Ho altre esigenze, voglio un altro, un'altra casa per fare altre cose, quindi adesso la prossima settimana oggi sono giunti 4, sembrano abbastanza tranquilli, la casa è piaciuta, è nuova, quindi è venuta bene. Adesso la prossima settimana ce ne ho altre 4, vediamo. Poi quelli sotto. Adesso lavori sempre in mezzo, mi fa il direttore dei lavori. Poco fa stavano controllando il tubo per un subito, questo è pronto a esplodere, pronto a scoppiare il tubo. Che lui vede nel futuro, capito? Quindi secondo lui va cambiato. È sempre in mezzo, quando si tratta di lavori sempre in mezzo, fare il direttore dei lavori e dire no, no, questo è Gusci, no, no, è Gusci come ti dirigo io. Lui sa tutto, lui sa, lui vede, lui dice, lui è la verità, come la canzone di Fabri Fibra. Mamma mia. C'è un po' di gente che non si fa cacchi sui. Io perché non vado mai alle riunioni di condomino? Non sono mai andato perché c'è un carattere molto particolare, mi incazzo, uno una volta ero andato, aveva rischiato di prendere schiaffi davanti a tutti e quindi sono più andato. Ma qua come si parla poco a poco, no? Le capote, dei primi piani, perché quello del primo piano c'è freddo, certo te l'ha detto di prendi che di comprarti il primo piano, no, perché tu c'hai freddo al primo piano, io sono costretto a mettere 500 euro per fare a te la capottina sotto del rivestimento, un po' di rettano, perché tu non abbi freddo d'inverno. Ah, mi dici al buco. Già ce n'erano quando c'erano i vecchi condomini all'ultimo piano, no? Quello siccome abitava al terzo piano senza ascensore voleva l'ascensore, cioè voleva che noi facciassimo mezzo palazzo per mettere l'ascensore per lui, poi perché io sono al piano rialzato, io non ho bisogno dell'ascensore. E poi se ne sono andati a abitare a Ussi, mi pare. Erano quelli dei paesi, gente dei paesi un po', non per dire niente, un po' prevenuto sono, no? Ci fanno ragionamenti assurdi, voleva distruggere mezzo palazzo per pensare all'ascensore per lui, ma che pretese che ha la gente. E non tu hai capito perché ho puntato i piedi sull'ultimo piano, per quel motivo lì, capito? Perché avevo chiesto 5-6 anni fa se era possibile mettere una ringhiera, un parapetto un pochino più alto, tutto in giro in giro, dalla parte lato praticamente interno, ok, per sicurezza, per tutti insomma, per chi sale, per chi ha necessità di salire, antennisti, mountaintori eccetera. No, mi hanno detto di mettermela io. Capito che quella parte era mia dove ci sono le antenne, argomenti, io da giù ho la possibilità di mettere le antenne TV in basso che non mi danno fastidio eccetera, e ti sto chiedendo di mettere anche per la mia sicurezza perché ci salgo molto su, mi hanno detto di mettermela io a spese mie, a Gusci, a voi non fate più, a voi quando altri tratti l'autoscala. Sì, perché quando le in condominio, quando hai una fai una richiesta tu, te devi pagare tu. Poi nella richiesta di altre persone bisogna dividere i millesimi. E vabbè, purtroppo mi è andata anche troppo bene per l'antenna, mentre c'era quella situazione, come ti dicevo, di anarchia, no? Sono salito all'ultimo piano, bussato, c'erano i inquilini, dovrei cambiare l'antenna, mica ho detto che era il baracchino. A parte che c'era già, c'è il tubo che l'antenna del baracchino vecchia, quindi non ho fatto niente, siamo a sostituirla, quindi che cazzo mi vanno a dire. Sono salito con Pomponio, certo la Ringo era uscita male, poi è stata gelata male anche, e poi era un'antennucola, capito? Molto meglio questa. Pensa che con la Ringo io da passando i prodotti non arrivavo nemmeno, ah, per dire la tutta. Invece con questa arrivo. Peccato che Sandro non ne sa più, non c'è più l'antenna, sulla casa, proprio tutto una bugata. Tutto una bugata, vuol dire che non ho diritto di là. Ma che può stare a Matarazzo del Vedo? Io non ho comprato qua nel lontano 1983. Era cantiere, la prima cosa che ho fatto ho piazzato l'antenna prima di arrivare io, figurati, capito? Perché è su, è roba mia e faccio quello che mi pare piace. No, l'altro giorno facevamo una bella discussione con il trattore, mi ha detto ti ricordi tavoletto dovrò venire per la parabola qui e là, e quindi se ti chiamo Pavotto, quindi la giurita cosa vuoi? Se ci sono la compagnia io la faccio salire, se io non ci sono, che vengono le mattine, c'è mia moglie, super che non ci sale nessuno. Come facciamo? Come facciamo? Atterrangi. E non lo di mattina vanno venire, atterrangi, gli ho detto. Atterrangi, ho detto, sono problemi tuoi, a me non me ne frega niente da parola. Non mi costringi a prendere l'autoscala, ti costringo a prendere l'autoscala. Ripeto, gli ho detto, se ci sono, volentieri. Se non ci sono, non di certo non vado a lavorare per accompagnare il tecnico a sostituire la parabola di Sky. Manco ballante camera, me ne basta a me. Ha girato le spalle e se n'è andato. Vai, girami le balle. Mamma mia. Adesso i due passano. Passa la ragazza, bellina, amico, gli occhiali. L'inviata dell'amministratore per ritirare le quote condominiali, che 30, prima pagavamo 25-29 con l'amministratrice dentro il palazzo, diciamo. Adesso paghiamo fare 37, ma per cosa? Cioè qua la manutenzione non ce n'è, bisogna solo lavare le scale e cambiare le lampadine quando si fulminano, basta, poi tutti gli altri lavori sono a parte. Poi dobbiamo pagare gli ultimi lavori, infatti siamo 153 euro giù di lì, gli ultimi lavori fatti, sempre non per cose nostre, sempre per lavori per i cavoli degli altri, capito? Va bene, finché ce ne paghiamo, quando non ce n'è più, signori, andate in pace, hai capito? Ma non funziona così neanche, andate in pace. Tu sei consapevole che il condominio si paga, le quote medesimali si ripartiscono per tutti i condomini, ti possono rateizzare, ti possono fare, ma devi pagare, perché la legge è molto chiara per il condominio, se sei morosità, sei vuotito, tu lo sai che uno qua, ti parlo di tanti anni fa, adesso non c'è più perché infatti gli hanno portato via la casa. Da quando è entrato non ha mai pagato il condominio, quando passava entrato dice cosa vuoi? Il condominio, la quota condominiale, non devo dare niente, io ciao, boom, le buttavo la porta sopra, una, due, tre, quattro, cinque volte, dieci volte, così non c'è passato più l'amministratore, ho fatto fare la lettera legale e ha risposto al legale, di sua mano, non mettendosi un altro legale, no? Abbi un po' di, cioè, esprimi i tuoi problemi, di le tue cosa sono quali, perché non stai pagando, tutto perché non voleva pagare, non mi ripagavo a me, nonostante avessi anche un buon posto di lavoro. Beh, per farla breve, non so quanti anni è stato senza pagare i condomini, non ha superato, mi pare, i 10.000 o i 15.000 euro di condomino. Mi hanno messo la casa all'asta, capito? Mi hanno messo la casa all'asta e se l'ha fatta portare via. Oh, vabbè, non siamo a quelli venti, noi quello che ci ha pagato lo paghiamo, però che non facciamo pretese troppo grandi, tipo a uno piace la facciata placcata oro, ha capito? Uno è la devo pagare tutti, no. Cioè non devono avere pretese strane o particolari, che finché un lavoro è indispensabile posso capire, ma quando vogliono fare le cose per abbellire il palazzo, no, come hanno molti da spendere, certi, molti soldi da spendere. Finché un lavoro è necessario è un conto, finché una cosa ha uno schiribizzo, allora no, non ci stiamo. Comunque vedo che è molto alla mano questo amministratore, anche l'altro. Prima aveva un'amministratrice in palazzo che era una emerita, già capito. Poi abbiamo avuto il primo amministratore che alla fine se n'è fuggito, perché è stato preso a voci da quello di sotto, proprio a voci, perché voleva che si facesse come diceva lui, quello di sotto. E ha trovato una scusa e se n'è andato, così non ha più a che fare con certe elementi. Adesso c'è uno nuovo, che mi pare sia in Piazzale Segni, Piazzale Segni, sì, c'ha la sede in quel palazzo dove c'è il cinese, a fianco al bar. Ma anche lui ha la mano, non è di quelli che manda lettere legali così, con uno schiocco di vita, è tranquillo, tranquillo. Se dici non ce li ho, te li faccio il prossimo mese, dice non c'è problema, capito? Non è così fiscato. Forse è appena arrivato, deve un po' valutare la ricchezza del palazzo, insomma se uno non può pagare un mese, paga l'altro mese, ma non succede niente. Comunque è carina la signorina che viene a ritirare, molto carina, c'ha gli occhiali, molto elegante, merita, merita proprio. Vai Natalino! Aspetta, stavo guardando una cosa. Beh, se merita va, dagli i soldi. Ma è così, non Marco. Non è così. La facciata di tutti. E quindi tu devi partecipare al millesimo. Ai millesimi di partizione. Capito? Non è che devono venire la facciata e la parte tua lo la veniciano. Assolutamente no. Capito? Perché qua quando ho fatto i Poggioli ho dovuto partecipare anche io. Quel poco che c'era dei ritocchi eccetera ho dovuto mettere la quota anch'io in millesimi, eppure non era, secondo me non era da fare, però l'hanno voluto fare, devi partecipare, è un casino secondo me, lascia vedere, è un casino troppi di nato, troppi di nato, il più grande è, questo ci abbiamo noi, ne ha 20 di condomini di queste dimensioni come la mia, e qua è grande, non è buccia di giocano, già l'hai visto, è un bel grande, partito bene, bello, bello, ben fatto, però è grande, come questo, più piccoli, ma c'ha palazzi grandi, a sesso, avrà 7-8, fa solo quello, capite, vive da 1000 euro, prende qua, perché noi siamo, no, qua prende 1100 euro al mese, fate il conto, perché noi siamo 101 qua, in tutte le scale, praticamente tutte le tre sono A, B, C, D, E, F, G, 7 scale sono, a scendere la schiena, quindi prende 1100 euro solo da questo, qui c'è un altro palazzo grande, mi pare sia 5 piani lo stesso, anche di prendersi a quei soldi, e un bel di rapiglia, infatti, stando bene, se lo vedi, c'è un 530 BMW nuovo nuovo, macchina 60.000 euro. No, già lo so che devo pagare tutti i millesimi, ma se c'è uno che ha più soldi, no, che è ricco, dice, ma a me la facciata a me piace placata oro, no, allora te la paghi tu, quello è uno sfizio per dire. Già lo so, ma so, non è io lo dico apposta, cioè non apposta, certo hai capito, se un lavoro è necessario si fa, ma se a uno piace uno schiribizzo come quello che voleva l'ascensore, no? Che abitava al terzo piano, si erano detto, ma noi abitiamo al piano terra, al sotto piano, giardino, non buttiamo nell'ascensore, poi bisognava, ma non c'era proprio il posto, dovevi mezzo demolire, ricostruire il palazzo, capito? La buttata lì. Cos'è questo odore? Roba di pappatoia? Vabbè. Un conio ci sei ancora tu. Cos'è questo odore? Odore è roba di una mezza. La pappatoia fa profumo. Vabbè, io dico odore, ma odore cucinato, per esempio. Certi dicono puzza, per me è un profumo, per esempio una volta hanno portato una quattro formaggi in una pizzeria, mi pare forse quella di Via Bolgino dove c'era IVA, sono a quattro formaggi a fianco di Belli, no? Certe ragazze, ah, che puzza, che puzza! Certo, ah, che puzza, questo per me è un profumo prelibato. Sì, vabbè, profumo, profumo già si sente. Quando c'è il profumo bello di pappattoia, allora è interessante, allora è fiacco, capito? E vabbè, non so, un po' così perché... sto facendo questa cosa da casa e poi alla fine me ne pento. Un sacco di soldi, un sacco di soldi per fare che cosa? Beh, vedremo. Ah, cioè alla fine spendi un bel di soldi per cosa? Per spostarti, per spostarti di un chilometro da lì a lì. Boh, non lo so, vedi tu. Però se vuoi stare solo, non devi stare in condominio, con le beghe condominiali è un gran vantaggio. Però se le spese sono eccessive, boh, non lo so, vedi tu Claudio. Vedi tu. Oh, beghe condominiali, non ho mai avuto un litigio con nessuno, io sto benissimo qua. Sto più che bene, benissimo. Ma è grande, ci mancherebbe. No, perché le esigenze ce le ha più mia figlia veramente di me. E poi vabbè col cane, sai, vivi meglio, sei più tranquillo e sereno, però poi alla fine a cosa serve? Non lo so, vabbè. Non lo so, comunque, oramai il passo è fatto e non è che si può tornare indietro. Un loro peccato, questa tu non l'hai mai vista da casa, penso di sì, sì, sei venuto. Sono venuta bene, nuova, poi io c'ho un sacco di spazio, capito? Dove vado, le radio andranno messe su in mansarda, una mansardina piccolina, vabbè c'è la finestra basculante, eccetera, ma che credo vi sarà di più, sarà da morire. Quindi condizionatore acceso, più spese, più quello, più l'altro, poi alla fine ci pensi, no? Vabbè, oramai, è fatta. È fatta. La colpa non è la mia perché noi ci avevamo sino a poco tempo fa una casa in via di San Francesco, palazzo quell'antico lì scendendo le scale proprio della chiesa di fronte. Adesso non c'è più il cartello grande sul terzo piano. Io ho visto quella casa, sono due mansarde accoppiate, 200 oltre 200 metri quadri di casa. Tre bagni, figurati, bellissima, ma veramente molto bella. E non c'è ascensore, lo stesso. E mia moglie non ci è voluta andare. Non mi piace il palazzo, è un palazzo vecchio, ma cosa te ne frega l'estetica del palazzo? Tu guarda il tuo appartamento. Capito? Quindi avrei dato questo, a mio cognato se avrei venduto questo io sarei andato lì. Allora lì, problemi non c'è perché c'è un terrazzo da, sarà un 8 metri, 8x4, capito? Lì avrei avuto la possibilità di mettere le antenne, casa mia, ultimo piano, lo stesso, e non ci ho voluto andare. E quindi è stato venduto dopo tanti tanti anni, perché è stato venduto 220.000 euro, si era partito a 280 perché si rivaleva tutti. Ma Marco, una cosa bellissima, molto molto bella, molto molto bello quell'appartamento, bello veramente, non mancava niente, nulla, bello, bello veramente, con tutti gli accorgimenti. Non ci ho voluto andare e quindi hanno deciso di vendere, l'ho venduto all'inizio dell'anno, quest'anno, capito? Ecco perché c'ho la disponibilità di fare queste cose, alla fine a voi mi ripento mentre tutti i gossi. Ehi, cioè no, no, io, no, non è detto che te ne pensa. Guarda che vivere una casa al di fuori del condominio è bello, nessuna rottura di spalle, nessuna spesa extra, capito? Poi tanto riscaldamento pagherete lo stesso, un bel, alla fine, lì c'è il clima tuo, il riscaldamento tuo, E tu che riscaldamento, questo a proposito, che riscaldamento metteresti in quella casa là? Pellet, gasolio, cosa metteresti? C'è riscaldamento a gas lì. C'è riscaldamento a gas. C'è la caldaia a gas, capito? Caldaia a gas. Ah, eia. Ehi, vabbè, io non lo conosco, non lo conoscevo tanto nemmeno quel tipo di coso. Vabbè, qua non ce n'è, qua ognuno si scalda come vuole. Credo che nessuno abbia messo il gas da me, lo sai, di città. Non credo che nessuno l'abbia messo, salvo rarissimi casi. Ma va bene. Io Natali, ci stai abbandonando, ci stai. Ma stavo guardando cosa là? Ma che qua è gas, Marco? Che qua era gasolio prima, tanti anni fa. E poi hanno cambiato le caldaie e hanno messo a gas. Capito? Gas di città. Ma c'è un caldo da morire d'inverno, eh. Io qua in stanza sto con la finestra aperta. No, non paghiamo niente noi. Io pago 120 euro al mese di condominio, compreso il riscaldamento d'inverno, lo pago tutti i mesi però, estate e inverno, anche se il riscaldamento è spento. Capito? È tutto pulizia scale, giardino, le manutenzioni del giardino si pagano a parte, quindi anche lì. Una spesa però quella non è mensile, è trimestrale, capite? È la stessa, tipo la stessa caldaia, più piccola di questa e nell'altra casa lo stesso. Mentre invece in quella di Viale San Francesco c'erano i condizionatori, sì ce n'era, sei gocce, caldo freddo, capito? Comunque se il riscaldamento è troppo alto, boh, è uno spreco anche. Ho anche la casa di un amico, via Bugì, no, dove era? Via... Vabbè, non... dalle parti dell'Italia. C'era caldo, io arrivavo da fuori, magari arrivavo in moto, quindi ero bello con la... ben coperto, arrivavo da loro, c'era questo caldo, mi dovevo tenermi, poi sai così, avevo io la maglia della salute per andare in moto, senza parabrezza, insomma, e lì avevo caldo perché non ti potevi togliere la maglia della salute, ti dovevi tenere la camicia e la maglia sotto che ti dava il caldo, io soffrivo quando andavo da loro. Questo che senso ha stare in magliettina lì, proprio in camicia e avere un bel caldo? Ma è troppo caldo c'era, mi dispiace, troppo caldo. Poi questi non aprivano la finestra nemmeno. Devi stare lì a schiattare dal caldo. No, deve essere appena appena il riscaldamento, tanto che ti dia un po' di giovamento, non troppo. Come scuola. Lo sai, all'istituto d'arte, io arrivavo in moto di solito, quindi ben coperto, c'erano le signorine, no? Che volevano stare in canottiera, in classe, in magliettina proprio trasparente, e c'era un forno, l'ha detto anche l'insegnante, c'è un caldo bestiale in questa aula d'inverno, e allora io cosa facevo? Mi portavo una chiavettina da 6 mm, no? Perché lì avevano tutti i rubinetti, no? Per non toccarlo. Però c'era sempre la regolazione, no? E portavo una chiave da 6 mm, mi chiudevo i termosifoni. E quindi c'era più fresco, stavo bene. E allora, c'è freddo, c'è freddo. Ma scusate, se avete freddo, invece di stare mezze nude, mettetevi la giacca, mettetevi il golfo. Perché devo crepare io per passare voi mezze nude? Questo non ho capito. Insomma, io andavo e mi chiedevo il termocifone dell'aula, capito? Sto dicendo qua è lo stesso. Io d'inverno, ma ti parlo d'inverno, Inverno pieno, c'è tramontana e fuori ci sono 6 gradi, 7 gradi. Qua io sono a maniche corte a casa. Qua è. Che fanno un caldo. Poi c'è per i musifoni grandi, uno non distante. Anche in bagno ti fa la doccia, il bagno, eccetera. Perché qua lo accendono. se c'è molto freddo, dalla mattina, dalle 10, fino alle 10 di notte, tutta una dirada. Se non c'è molto freddo la mattina, lo accendono dalle 3 fino alle 10 e mezza, alle 11. Lo accendono, si accende da solo, capite? Ma c'è un caldo da morire, caldo, allucinante, poi io cammino scalzo, il pavimento è bollente, caldo, caldo, caldo. Io di solito, come torno da fuori, mi voglio levare solo la giacca, metti che abbia una maglietta, una camicia, una felpa. Quando vado fuori metto la giacca, quando torno a casa mi levo la giacca, ma devo stare bene con quello che ho, capito? Non è che mi devo togliere tutto e farmi la maglietta, no, non mi piace così. E purtroppo anche a casa di questi amici c'era troppo caldo. Troppo caldo, mi giù, singhiozzo mi. Singhiozzo? Ehi, adesso mi prendo un pezzo di cotone e mi pulisco lo smitter, sai perché? Lo smitter, no? È luminoso e tiepido. Ogni tanto qualche moto, qualche mocellino, si poggia sullo smitter e me lo caga, mi lascia la chiacchettina tonda. Perché? Sia perché è luminoso li attira, no? E poi siccome è caldo per loro, no? Se ci avvertono il calore della lampadina, mi piace stare lì, che un certo me lo cagano e trovo questi puntini. Adesso lo pulisco, mi fa anche schifo. Vai, vai, buon pomane. Vai, vai tu, buon pomane due. Siccome la taglio, buon pomane, vai, vai. E c'è, ma non parla Antalino, è impegnato, capito? Ah, non parli, eh? Ecco. Bello. Sì, qua all'opera sempre io, eh. Qualcosa devo procurare, riparare, guadagnare. È giusto che sia così? Se non ti arrangi, nessuno ti aiuta, eh. Infatti vero santo, santo arrangia di. Sta ammazzendomi, ammazzendomi i messaggi. Non mi vogliono mollare. Mamma mia, guarda, c'ho un nervoso. Sono disperati che te ne stai andando. Fisciuga. Ammazzendomi, Gio. Ammazzendomi. Mi stanno martellando il cervello. Che cazzo di dirigenti. Mi stanno martellando il cervello. Ancora ne compreso l'italiano. Pensione, là. E via. Ah, da quando? Dal 1° gennaio. Dal 1° gennaio, però ho 26 giorni di ferie, quindi praticamente finisco il prossimo mese. Ah, ho capito. Meglio così. Auguri allora, Cla. Vabbè, tre travagliati e noi te ne regalati. Infatti, le travagliatici, ma non me vuole nulla. Spero un attimo in booleana. Vedrei che pur di rimanere altri 2 anni ti pagano a peso d'oro. Il tuo peso che c'hai in oro ti danno. Però, come hai detto tu, ormai è avviata la pratica, non puoi tornare indietro, no? Cosa? Ho detto, ormai hai detto che le pratiche sono inoltrate, non puoi tornare indietro, no? Assolutamente no. Mi hanno dato anche le mail il sindacato. Lunedì mattina devo andare a firmare. Scusa, ma stai scherzando? Assolutamente no. Non mi stanno facendo mille offerte. Mille offerte. Capito? Vai, vai. No, non voglio più sapere, basta, ho già dato. Allucinante, basta. Però diglielo, una volta che sono in pensione, che nessun collega mi chiami per avere informazioni sugli impianti, dice non mi chiamate più. Dal primo giorno di pensione non mi chiamate più, eh? E quelli sono capaci, mi chiamano Claudio, sì, mi sai dire come si fa quello che non mi ricordo, vedrai che lo fanno. E più di uno ce ne sarà, basta farli i corsi di aggiornamento, ne ho fatto 26 dei corsi di aggiornamento, sono stato 3 giorni a Cagliari facendo corsi di aggiornamento, capito, mi sono sempre aggiornato, quando ci hanno piazzato i telecontrolli sono stato una settimana appresso all'ingegnere per spiegarmi vite e miracoli dei telecontrolli, capito? Invece l'altro è tutti a far fare, cosa che sia, ma cosa è, se c'è un interruttore, ma resettaliscio, ma gli altri voti, e quando andava in tizi, io, che partono i telefoni, ma è un altro, partono i telefoni aziendali, tutti in tilti, mi ammazzavano a luna di notte, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, c'è l'allarme, pavesetta, la pavesetta. E qui c'è accesso, ce l'hai. Non me la giusti niente, allora impiccati. Allucinante, va. Un attimino che... Sai cosa faccio? Pulisco il display di qua e cambio radio anche. Attendetemi con ansia. A dopo, ciao. Ok. Vabbè, interessante che uno se ne abbia sudati su di poi. Claro, il discorso è anche che devi essere, non dico, insomma, pagandoti ovvio, no? Segnare a chi entra dopo di te per rivedere un po' di cose. Ti fai pagare, te lo ordino a futti. Luma, io capisco che nessuno è nato imparato, neanche io mi sono formato da solo, con anni e anni di sacrificio. Quindi, e quelli che sono con me, sono abbastanza, o che erano con me, sono abbastanza preparati per andare da solo. Basta far funzionare la testa, invece va a funzionare bene, capito? Come gli ho sempre insegnato io. E vedrai che già vanno avanti, perché io non le voglio più sapere. Ti credo, vabbè. Vabbè, questa la vuoi sentire, l'ultima? Sono, vabbè, un mio dirigente, so che a fine mese termini, volevo proporti un contratto parziale per la copertura dei mesi di giugno, luglio e agosto, se vuoi anche settembre, con un ricavo netto di 12.000 euro, ci stai? Tu cosa cazzo lo rispondi? Il discorso è se tu, vabbè, fanno bisogno comunque, là. Tu hanno bisogno perché io, con la formazione che ho fatto, ho un incarico molto molto delicato, in pratica seguo una parte molto delicata del lavoro, capito? Per riformare un'altra persona, loro hanno, non hanno il tempo materiale, perché ad aprile entra in funzione quel meccanismo che io già seguo da tanti anni, capisci? Quindi non hanno il personale già formato, e per poterlo formare sicuramente avranno grandi grandi problemi per la gestione in quella zona, in quel lotto di Olbia Tempio, capito? È tutto lì sì il problema, è tutto lì il problema, ma questo loro se lo devono aspettare, perché io già da un paio d'anni che dico formatemi un'altra persona da affiancare, in modo che quando io non ci sarò più lui sia in grado di poter gestire bene la situazione. Questo non è mai successo, se ne stanno accorgendo adesso che io ho buttato la spugna, cioè capisci, mi gira un po' più le balle dire queste cose che andare a interfacciarmi con l'azienda e dire va bene, continuo io sino a quando non formate un'altra persona. Allora ho fatto più lui. La cosa stressante, l'anno scorso, quest'anno cioè, ne sono uscito gioco ancora abusami, perché la gestione di quel contesto lì inizia da maggio, però da maggio è ancora un po' più lenta, ma giugno, luglio, agosto e settembre sono dalle 6 del mattino, senza fermarti mai un attimo, sino alle 6 di sera, pagato profumatamente, attenzione, non ho niente assolutamente da dire, pagato profumatamente, però devi resistermi, l'estate che abbiamo passato quest'anno con 40-45 gradi in chissà zona, non è buccia di gioco, lui. Bruno si immagina, lo so, non è facile, chi non c'è in me non può dire niente, perché non lo sa, vabbè. Non so, vedi tu, là, se ti battono quelli che ti hanno dato, che ti sei lavorato, poi questi che ti ha detto dei 12.000, tu ci avrei pensato un attimino. Sono lui, sono più di 2.000 euro al mese, però credimi che non so, una decisione che mia moglie fa di testa, ma fa di testa, però se non ci sei in mezzo, come hai detto tu, non lo capisci, capito? E attento, io sono anni che non vedo domeniche, non vedo feste, sono sono anni che non mi riunisco in famiglia, a Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, perché ho sempre lavorato, ho reperibile al lavoro, capito? Quindi tu lo sai, io ho sempre lavorato da ragazzino, ho 58 anni, e posso tranquillamente buttare la spugna, vuol dire che ho lavorato da piccolo, no? Col massimo, non come te dici andare in pensione con 25 anni, 30 anni di travaglio, a chi va di male il gordo, a chi va una patologia, a chi va lì, no, io non ho nessuna patologia, ma li ho lavorati 42 anni grandi, capito? La metà di 16 anni, quindi mi sento assicurato pure. Perciò, non lo so, lui, è una decisione che non lo riesco a prendere adesso così al momento. Vedrò più avanti. Adesso me ne vado in ferie, mi rilasso, mi riposo 20 giorni e poi si riflette. È un grande sacrificio, sono anche soldi, ho capito, però è un grande sacrificio. E in questo momento ho bisogno di staccare la spina, non voi. Quando aprire vi pensiamo, ma quando aprire ci pensiamo. Un'azienda che mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, mi ha dato la possibilità di guadagnare soldi, anche se c'è stato un periodo dove ci sono tante alcune mancanze, però il Ferraffa non mi ha mai lasciato senza denaro. Ma vediamo, a quando aprire c'è tempo, per il momento stacco la spina e non lo voglio più sapere. Capisco che quel lavoro lì lui si accaba soli, poi lavoro diciamo anche tu anche nei cosi stavi, nei come si chiama? Vabbè, dove c'è l'acqua sporca là. Io sono l'unico dell'azienda che gestisce quello. L'unico, ma la gestione vuol dire gestire, saper gestire anche la parte amministrativa, attento. C'è un mare di carta, lui, un mare di carta da fare tutti i giorni. Io come esco di casa, arrivo a Sorso, mi prendo la cartella dove ci sono tutte tutte le cose che devi fare, ma fare nel senso farle fare agli altri, ma tu le devi seguire e saperle seguire. Preciso calcoli di tutti i rimaneri, tutti, tu immaginati che io relaziono, poi a fine mese va tutto relazionato, io porto tutto in amministrazione, già pronto a fatturare, vedi tu, quindi pronto a fatturare l'Enel, impianto per impianto, con tutta l'attiva e la reattiva, calcolo per calcolo, quanto ha consumato in 24 ore, quanto reagente ha consumato in 24 ore, quanto ingresso è entrato in 24 ore, quanto è stato trattato sul trattamento, cioè, ci sono mille cose lui, giornaliere, che ti ripeto, se uno non c'è in mezzo non le capisce, capito? Questo devi fare in 6 ore e 40 quando hai 6 ore e 40 a disposizione, e se no ti devi trattenere e fare almeno 2-3 ore straordinarie, perché non ce la fai, perché io faccio 250 km al giorno, tutti i santi giorni, girando da un impianto all'altro, capito? 250 km di... Lui, vedi tu, io c'avevo prima sede a Canica e prendevo la macchina di servizio, adesso c'ho sede a Sorso, quindi parto da Sorso e faccio da Sorso, Vidalba, devo andare a Vidalba, poi devo salire su da Vidalba, devo salire alla Totta, quindi Totta, Montigioni, scendere e fare Alta Gulta, che è un altro paesino che c'è sotto, Badesi zona industriale, da Badesi esco a Trinità da Gulto, da Trinità scendo a Vignola paese, Vignola mare, salgo ad Aglientu, torno a scendere, ritorno indietro, e scendo a Paduledda, Marinetta, Isola Rossa Porto e poi riscendo a Vidalba. Un piccolo giretto. Tu d'estate lo devi fare, non d'inverno, no? È la panoramica che porta da Castelsardo a Santa Teresa di Gallura. Io conosco tutte le strade un po' meno trafficate, quindi salgo le montagne e torno a scendere, capito? Faccio la vecchia strada che va a Tempio, quindi scendo dalla parte di Aglientu. Ti sto dicendo che non è facile fare quella cosa. E d'inverno è ancora più facile perché hai meno lavoro, ok? Ma devi stare molto attento alla strada, che chi vive in neve e ghiaccio, un bel, tutti lì. Non lo posso immaginare. Claro, solo tu lo puoi sapere, l'altro non lo puoi sapere, eh? Che si fa? E un male di cose da fare ci sono, con grande responsabilità, perciò, capito? No, no, non lo so, in questo momento sinceramente non lo so, non posso dire sì o no, però dice, non venire altri messaggi, manco male si è bloccato, in questo momento non lo so, ripeto, quando aprire ci penserò, vedrò le risorse. Vedrò le risorse, che esigenze ho, eccetera, eccetera, perché adesso a gennaio mi liquidano, quindi devo vedere alcune cose, sai che sto cambiando casa, si sto vendendo qua, che stiamo facendo una bifamiliare con Ilaria, quindi devo vedere le risorse lui. Se le risorse mi permettono di non farli, questi 4 mesi non li faccio, assolutamente. Ah, vai via da lì? Sì, sì, ma si è vendita la casa, è già da prima dell'estate, oggi ce n'erano 4, uno ce n'è andato ancora, ho trovato il ballo. Adesso la tecnocasa mi ha detto di domani è sabato pausa, venerdì sabato e a pausa, ma lunedì ci sono altre 4-5 appuntamenti. Quindi devi stare sempre la casa in ordine, tu lo sai che c'è Filippo, quindi ogni volta viene qualcuno, o Ilaria o Anna devono prendere il cane e portarlo fuori in giro perché rompe il ballo e non ti fa fare niente. Sono più stressato da qua che non trova niente. Non lo posso immaginare, avanti chi è? Chi è avanti? Oh, sono rientrato, scusate, sto controllando una cosa in questo apparato, riprendete voi, dai. Oh, sai, c'era qualche portante prima, ma non ti coprivano, claro. No, forse era Marco che stava schiacciando, tu hai schiacciato Marco. Sì, non ho capito perché questo baracchino se ne va un po' sopra, un po' sotto il canale. Forse sto toccando i tasti senza volerlo, boh. Dai, gli do un'occhiata, un attimino. Ma qual è quello che ogni tanto partiva da solo? Quello lì è. Mettili quell'occhio che avevi messo l'altra volta. Ti ricordi che si spostava dal 9 al 10? Eia, l'ho messo adesso, Spero che non si sposti più. Aspetta che abbassi il volume. Questo apparato ha una particolarità, che sia che parli così a 20 cm, a 10 cm, sia che parli così a distante tutto il braccio, si sente lo stesso abbastanza bene. No, c'è fortissimo. Sì, avevi messo, l'aveva già fatto una volta, ti ricordi, ma cosa si trattene una sabonetta che ti spostavi dal 9 al 10 da solo, parlando. E poi gli hai messo, schiacciato un interruttore e non l'ha più fatto. Forse è questo, aspetta che regolo il volume, là. Boh. Non so nemmeno quanti watt stia dando, qua sale pochissimo, spero che sia tutto a posto. Com'è il segnale lì? Vai, si è agganciato, vai, c'è 9.40. Allora sono 12, forse 12, perché qua non ho lo strumento attaccato. E va bene così allora, dai. Mi sei trovato un massaggio. Oggi ti può dire a pezzi, mi. Ma credimi, il tuo re. Certo che sì. Ma in base, sì, non mi ha fatto sapere nulla, mi chiamerà. Questo è il rispetto poc'anzi all'ingegnere. E lui mi ha detto, certo che sì, quindi devo ancora gettare un'altra chiamata. Buonanotte, al Gattaro. Vabbè. Beh, io il coso l'ho riparato. Avevo gli scisi 30 euro, qua. Ma sono giù busto. Una mezz'oretta ha fatto. Va bene, lui. Io ti ammiro per quello che sei, lo sai, ci conosciamo la vita oramai. Noi andavo così entrando a fare dare il radio, con un petto di filo attaccato alla... via roba da stendere, c'è una caterina, quindi ci conosciamo, so che sei una persona che veramente ha voglia di lavorare, perché anche se lavoro non ce n'è, te l'hai creato, sei diventato bravissimo in quel campo e stai sempre facendo, e quindi sei da ammirare lui. Perciò io vi dicia ogni lì, pure a desiro alla lì, non te ne ha fatti nulla, l'importante è sempre qualche cosa in busciacca. Ah, io quello senza dubbio. Quello senza ombra di dubbio, ma no, vabbè, diciamo che all'inizio facevo solo danni, non sapevo saldare come Dio comanda, adesso non ci ho molto saldato da nuovo. È una cosa. Boh, è una cosa da spiegare, guarda. Tutto un altro mondo, diciamo, dai. Saldature proprio belle, di lusso. Poi di saldo cose che io ho saldato non riesco a risaldare, se non c'è saldato l'aria calda. Tante cose faccio qua, là, tante cose. Guarda, e cambio anche, sono riuscito a cambiare anche i tastini dell'accensione dei tablet, che sono talmente piccolini, però piano piano ho messo il bongolo di saldo, una volta risaldato, poi cosa faccio? Ho fatto un coso, si chiama flussante, no? Ripulisco bene le piste, poi una volta glielo appoggio, ho saldato le sottile sottile, bene, che è una meraviglia, guarda. Quindi io tocco a fare la mattina, hai capito? Non lo so, a ciò lo condanno. Ciao, ciao Muccolo. Ciao, ciao a tutti, scusa, grazie, sono stato salutato, sto uscendo. Ciao Muccoletto, buona uscita, a spendere sei andato? No, a spendere, io già. Vabbè, in pizzeria siamo invitati, è il compleanno di un amico di Gabriele, quindi noi ci apportiamo in un altro tavolo. Ah, va bene, no, amico. Io vado sabato proprio con Franco, amico, dove parla il baracchino, la moglie, eccetera, eccetera, ex collega di mia moglie. Va bene, ciao a te, buona passeggiata, vai Lu. Va bene, sto uscendo, ciao ciao, salutami tutti. Ciao T, va bene, Marco. Ehi, ciao Tino, ben sentito, dai. Buona pizzata, così è. Ma sto uscendo. Oh, scusate un attimo. Scusa Marco, lì che stavo. Stavo prendendo un numero di telefono, c'è un'agenda di questo funzionario che poi lo chiamo. Ho detto l'ora di cena, che adesso. 7:20, vabbè, adesso le 8 lo chiamo, vediamo cos'è, lo sapevo più, ma c'è qui, c'ho anche mal di testa, fanno male anche gli occhi. Fateli dare in nero i soldi. No, non si può fare, li stai scherzando, sono quel contratto a chiamata, capito, dove si stabilisce una cifra e quella prendi, no, come fai, non stai scherzando. Si può fare lì con ente pubblico o Marco, come fai in nero? No, è un, lo so, me l'hanno già proposto altre volte, con i contratti a chiamata per 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, in questo caso è 4 mesi, e quindi un'assunzione diretta che ti fanno nominativa, capito? La chiamata, si chiama contratto a chiamata. Ehi, comunque è strana questa cosa che cambia canale, perché o c'è un contattino con i tasti up down, spero venga dal microfono, vabbè, comunque c'è, per fortuna c'è il lock, il blocco, io metto il blocco a fare una chiavetta e da lì non si muove, dai, così ovviamo al problema. Ok, Natalino, ma sta diventando prezioso? Minchia quanto cambia il segnale, Marco, sembri agganciato, sugar. Il tuo segnale è 9,32-35 modulato, sì, 9,40 pieno, da 4 watt a 12 watt, così è? Credo, non so esattamente la potenza, qua dovrebbe essere 12-15, non lo so. Non me lo ricordo più perché anche questo lo uso ben poco. Questo è CRT 9009, è piccolino, sembra un autoradio, e dovrebbe avere 50 watt in FM, 60 watt in banda laterale, in AM dovrebbe averne tipo 12 portante fissa e il resto modulati. Per esempio, guarda, dalla portante muta al fischio, guarda, cambia da portante molto a fischio, sì, o modulato. Sugar, allucinante. Allucinante, quanto pomponio mi arrivi? Allora, da 9,40 fischiato vai quasi sul 50. 9,45. Minchia, sai cosa ho dovuto fare? Siccome questo scalda a bestia, ho dovuto mettere la ventolina, una ventolina, quella che uso sull'ineretto, l'ho attaccata con un elastico e sta raffreddando il dissipatore dietro, capito? E se ti mando la cosa, la foto, mi parla, ti mando la foto. La foto o il video? Vediamo un po'. La foto dello Smitter, diciamo, dai. Guarda, ti mando un fischio, provo a fare lo scatto mentre fischio. Non ho fiato. Ci sto provando, così ti rendi conto quanto arrivi, che non ci crede la gente. Allucinante, e sugar, tua camera, eccolo qua, porto mandato, e questo è preciso, questo è un segnale preciso, minchia. Eia, adesso arriva, lo guardo, sì, questo proprio parlare me ne avrà forse 12, importante, adesso li devo misurare. Però il resto, una trentina dovrebbe averle modulati. Ecco, sta caricando molto piano la foto, così la vedo. Ma non hai fatto la foto allo Smitter, hai fatto la foto panoramica anche della radio, così è? No, allo Smitter è 4.40. Lo Smitter già si vede 4.40. Lo Smitter, dello Smitter, non stavi fischiando, sul parlato, guarda quanto arrivi. Quando fischi è quasi 9.50, se fischi forte. Allucinante. Sono contento, dai. Avevo salutato Tino, non ho fatto in tempo a salutarlo che era già andato via, dai. Ehi, già questa, cavolo, cosa stai a stare con lineare, agganciare, a fare? Favolosa questa, come radio, molto presente, bella amplificata, fortissima. Come segnale è una canonata. Eia, vabbè, che tra di noi anche 4 watt, però il bello è che così mi sentono un po' più forte anche fuori. Allora, ecco, sì, 9 più 40, giusto, 9,40 perfetto. Invece da lì c'ho 9,30, così è 9,30 e spiccioli. Sì, col baracchino a 4 watt arrivi 30, modulato si sposta un po', 32-33. Però un ottimo segnale per essere 4 watt. Così con questa potenza, che è una potenza abbordabile, anche il Galaxino c'ha 12 watt. P&P, caspita, guarda tu il segnale, 9.40 pieno, non ti dico balle, quando parli si muove anche, capito? Ho fatto la foto che era fermo, però quando parli si muove a 42-43, insomma, tra il 45 arriva quasi a punte di 45, quando fischi arriva a 50 pieno. Ehi, vabbè, noi vabbè siamo vicini, non facciamo testo. Questo è macchina, ma lo sai quanto pompa? Questo è macchina molto bello. Purtroppo, proprio perché il microfono è sensibile, si porta tutto la bluetooth della guida. Quindi bisognerebbe regolare il mic gain a metà, più o meno. A meno che uno non tenga i vetri chiusi, certo, se in inverno uno ha i vetri chiusi, allora va bene, caspita, 30 watt modulati, se non sono di più pure, non lo so io, perché il picco, il mio wattmetro non me lo fa vedere il picco, ci vorrebbe quello che hai ordinato tu, com'era, l'HP901, HP801, così è, boh, non mi ricordo la sigla. CN 801 della Daiwa. Ah, esatto, quello ti fa vedere il picco, quindi fischiando ti fa vedere il massimo del picco. Eia, è bello il 4.40 comunque in foto, molto bello. Anche il 4.30 è bello, il 140 era il più povero, il più misero di tasti, dai, proprio base. Ah, bella radio, sono belle. Sono belle, e sono da rabbiano, Marco, di te, guarda. Manca uno dalla parte della finestra, che effetto. Dopo, un volume come questo, fila c'è 430 e 440 tutta la linea, capito? Ma ne ho altro, ne ho anche un altro sulla dall'altra parte, capito? Mi piacciono troppo ste radio, dico sempre non ne compro più, ne compro più e quando capita le compro sempre. Boh. Oh, su Roger K c'è uno che si è messo l'antenna Ringo della Lem, no? La Ringo Lem, e si lamenta che non lo sente nessuno. E beh, vorrei vedere. Già ne vai, sente. Ah, vai, un lo cerco. Chi è? Cosa c'è? Ogni tanto schiacciano. Cosa c'è? Parla, ci vuoi parlare. Cosa c'è? No, beh, non serve niente con l'antenna. Guarda, va bene in città, giusto in città va bene, fino agli punti, a Ottava anche va bene, però quando si parla di Alghero, Pro Torres, oh, manco per le scatole. Natalino, Natalino, stai rifacendo il prezioso oggi, ah? Guarda, mi dà error. Certe volte mollo la portante, mi dà errore, indovina perché? Perché? Perché qualche contattino sta cercando di cambiare canale. Quando la chiavetta è inserita, no? Non posso cambiare canale. Certe volte mollando la portante appare per un istante error. Vuol dire che c'è un contattino nei tastini up down. Devo aprire il microfono e dargli una pulita o allontanarli dal contatto, capito? Bisogna fare più spessore nel contattino. E dopo le pante non si sposti, perché se c'è la chiavetta inserita non le consente di spostarsi. Quello è molto importante, perché ti ricordi l'altra volta eravamo sul 10, parlavi e tu ti spostavi al 9, poi andavo al 9 e tu ti spostavi al 10, ma cosa sei inconveniente? E mi avevi detto, il baracchino che camminava solo. Sì, mi trovavo sul 9, sull'11, ho detto, ma cosa sta succedendo qua? Sì, bisogna contattare, dare una controllata al contattino, pulirlo, distanziarlo se necessario, già lo faccio, dai, con calma. Questa è una presa a 6 poli, questo apparato. Purtroppo o mi faccio un adattatore, metto l'MB più 5, sai quanto spinge con l'MB più 5, ciu. Oh, è favoloso quel microfono, io ne ho due. Ne ho due, ma sono tutti e due modificati. Quello del Galaxy già l'hai sentito, lo devo tenere bassissimo perché spinge quanto un tenere più 3. L'ho modificato nel senso la capsula non è più originale, sono delle capsule molto forti. L'altro, quello lo stesso che ho preso da Gigi, che lo uso con il 48, oppure c'ha il cavetto per usare anche con il Galaxy, è fortissimo lo stesso, sono dei buoni microfoni. Il P4 invece è originale, quello che devo dare domenica, lo porto, lo regalo a Giuseppe, capito? Devo andare a fare le commissioni sul posto, lo regalo a Giuseppe, lo nuovo, l'avevo comprato l'anno scorso. Saluto! Devo fare con calma, e adesso se vuoi che ti faccio l'acqua, io te l'ho detto, io quello che devo fare l'ho fatto, però non eravate pronti. Di quello è venuto il fontaniere, dovevate essere già pronti, capite? E vabbè, piano piano, mettiti a fare, così, passate quei tubi e poi viene e ti mette il contattore nuovo. Vai Marco. Eia, ciao Capri2, vedi un po' oggi come mi ascolti di segnale, non di radio, di segnale oggi, è più forte del normale, no? Non ho capito quale roba, la gemella che c'hai tu. Ma tu ti vedi di Palomo, ce la vuoi o non la vuoi? Perché anche stamattina mi ha chiamato che lui c'ha dei contatti, di preparargliela, e la radio è pronta. Capito? Non lo so, come vuoi io non ne ho problemi, non è roba mia. Quindi se la vuoi io non ne ho problemi. Cosa ti stavo dicendo? E invece il microfono non te lo metti nello Yaesu, l'85? Io non ho problemi, fammi chiamare il proprietario e ti do subito la risposta, non ho problemi. Io ti sto dicendo che non è roba mia, mi ha chiamato ieri e mi ha detto che c'è uno che la vuole, ma ci sei, mi capisci? Se fosse stata roba mia te l'avrei data già dall'altro giorno. Vuoi che cambiato idea, poi mi ha richiamato, io adesso lo richiamo, dico, stanno venendo a prendersi la radio, la posso dare? Se mi dice sì, dalla, scendi e te la prendi, oh, mi interessa a me no, figurati, cosa me la putta a me, non è roba mia, fammi chiamare e ti dico subito, rimani qua in radio e ti dico se l'ha già venduta lui o se ancora non l'ha venduta, scendi e te la prendi, microfono normale, ciao, ti ho detto. Eia, è una cosa sommaria, è una cosa, per esempio, guarda, portante muta, e poi, ola, ola, ola, ola, è un baracchino, un CRT 9009, allora il microfono di serie, sì, è alimentato dalla radio, è praticamente di portante muta, saranno un 12 watt, 15 watt, modulati dovrebbero essere almeno 30, no? Credo sia leggermente amplificato. Aspetta, gli ho mandato un messaggio che non mi risponde al telefono. Ho detto anche una parolaccia, risponde al telefono invece il capo della televisione. Aspetta un attimo, Capri. Se mi risponde che mi dice ok, scendi e te la prendi. Capito? Perché era in contatto già lui con un'altra persona, perché tu mi hai detto che non la volevi. Quindi non so se si è preso degli impegni, capito? Non è che posso dirti scendi e prendetela, se tu l'hai già venduta lui cosa facciamo? La mia deve volare. Aspetta un attimo, sto cercando di mettermi in contatto, se mi risponde te lo dico, ok? Allora, modulati almeno 30. Allora, questo è un indicatore digitale. È digitale, quindi è molto approssimativo, però sì, Santiago 9. No, negativo. Con questo Smitter non si nota. Raccontagli del mio, Marco, digli il mio com'è. Io entro a modulare, nata lì. E sono qua, stavo mangiando, mi devo prendere le pastiglie io a quell'ora, capito? Devo mangiare pai fuzza. Adesso siccome ho fatto quasi tutto posso parlare. Che pastiglie? Il Viagra? E allora? Eia, c'è anche Natalino, volevo chiedere, Luca Del Monte c'è ancora? No, non c'è. Oh, ok, da, va bene, ci siamo qua. Eia, caro Natalino, come mi ascolti tu di radio? Questo è il CRT 9009. Dovrebbe avere una modulazione leggermente più sui toni bassi rispetto al come si chiama? Al Superstar. E sì, anche sul più del 30 qua. Non so se merendo o se faccio colazione. Eia. Claudio sta leggendo i messaggi, no, sta chiamando quella persona per la risposta. Lei a Capri, è un volgare baracchino, dai, però diciamo che ha dunque un 30 watt modulato in AM, 50 watt in FM e 60 watt, 60 in banda laterale. Non passi tutto, Natalino. Ma digli che non posso alzare. Più di questi 5 watt non posso mettere, digli che disturbo e non posso salire, se no ci pongo 50 watt a birra, se mi intendi. Io lo sento basso, mi sono di gridi. E tu pure un cazzo, un baracchino di cazzo che va. Quanto ti arriva? Santiago 2. E qua è 9. Ma io sono più in basso, sono in condizioni loffie io, capito? Ecco perché lo sento basso. E a me non mi sente, perché io sono... Cazzo, state parlando in 4. Ogni abbassaggio. Hai capito? A te stavo chiamandomi Cocomane. Scusate, dai, che... Ciao Gianni, io vado via, dai, vado a cenare. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao Gianni, alla prossima, ciao anche Natalino. Alla prossima, ciao. Ciao Lu. Allora, Gianni, ok, non ci sono problemi. Io adesso torno a portare il cane. Fra quanto scendi? Io lo porto adesso, dopo le 8. Se no, se hai problemi, vieni e te lo prendi domani, non lo so, vedi tu, se sei più libero, domani dopo pranzo, subito dopo pranzo, vieni e te lo prendi, se no facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, ci vediamo lì da Brescia, però dopo le due, come abbiamo fatto l'altra volta, io me lo metto in macchina, me lo porto al lavoro e poi dopo le due te lo posso consegnare, se no ci vediamo dopo. Come vuoi tu, la tua scelta, vedi tu cosa vuoi fare. Ma mi fai portare il cane, adesso stai venendo, me lo fai portare il tuo cane, ma stai venendo, sono le 8 meno un quarto, io dopo le 8 sono nuovamente a casa, ok? E tutto ciò, ti ho detto, c'ho il capo alimentazione, il microfono normale e la radio. Intanto non perché è staccato, capito? Salvo attaccare la via, eccetera. Non c'è problema, ti dico quello che devi fare e tu l'accendi. All'Anda e Caraibi, capito? Ascolta, dalle 8:30, dalle 8:30 a casa, bene va. Sì, presentabile già, non c'è problema, abbastanza presentabile, dai. Un po' qualche cosettino, ce l'ha mai presentato, già, per quel petto piglia la ruolo, te l'ho detto dall'altra volta, guarda che io l'ho provato, è perfetta la radio, non guardare se c'è un graffettino o una cagata, a tutti i diti, per quel petto prendilo. E già, ma a fine anno io vado, io l'anno scorso volevo andare, poi lo so, non ci sono andato, se c'ho compagnia ci posso andare a quella di dicembre, capito, che è a cavallo tra il 21 e il 23, mi sembra una cosa del genere, a Genova, sì, a Genova c'è, cioè, sì, a Genova, mi pare che sia dal 21 al 23, una cosa del genere, a cavallo di Natale, dai, capito, e a Genova è bello perché vai a Polo Torres e... o imbarchi in macchina, io solo poi dopo la fiera, sei tranquillo, andare in aereo è una rottura di balle, ci sono già andato, poi guarda che parlo di giro, so. Ascolta, fammi portare il cane, dai, poi verso le 8:30 ci vediamo a casa, ok, così tiro quella radio, va bene? E quindi cosa dobbiamo fare, giro panoramico, venite tutti sotto casa che Gianni Capridua vi fa un giro nel furgone a 9 posti. E che si fa il furgone a 9 posti cosa ragioni buoni? 9 bassoni. Ok, dai, io vado a portare il cane, alle 8:30 vieni a casa, ok? Ciao, ciao a tutti, a dopo. Va bene, soldi alla mano, eh? Non è roba mia, no? Non è roba mia, è un'altra roba da vendere, allora interessa, e tanto le adia, ok? A me non mi interessa, io ce li ho già e mi battono quelle che ho. Dai, ci sentiamo dopo, vado a portare il cane. E te l'hai perso, peggio per te, sto dando un 4:40, capito? Un 4:40 sto dando, peggio per te. Cosa vuoi dica? Me l'ho portato l'altro giorno a prendere. Mi sono sta comprando Gianni Capridua. C'è un difettuccio nell'accensione, ma una grandissima affrontata. Per il resto la radio è perfetta. Capito? Vado a portare il cane, va bene, sentiamo dopo. Oh, se la vuoi ti vendo la mia, qual è il problema? Ti vendo questa. Valerio, come vado io? Ehia, Valerio, vedi un po' come vado io. 1, 2, 3, 4, 5. Sto usando un altro baracchino, diverso. Vedi come vado? Ehia, allora, sto usando un CRT 9009. Il frontalino è piccolo come un autoradio. Dovrebbe avere 30 watt modulati in AM, 50 watt in FM, 60 watt in banda laterale K. D'accordo. Cavali, continui. Dovrebbe dargli di portante un 12 watt, massimo 15. Tutto il resto di watt sono modulati, ok? Meglio ancora. Ehi, carino il bip, vero? Diverso dagli altri. No, qua va tutto bene. Ascolta, guarda se preferisci questo di bip. 1, 2, 3. Ehia. Vabbè, adesso lo tolgo del tutto, dai. Era solo una prova. Aspetta che me lo ascolto nel baracchino. 1, 2, 3. Ehi, non è male, dai. Anche questo è simpatico, dai. Ecco, tolto tutto, il bip è superfluo, in banda laterale è bello usarlo, quando fai di XM, per far capire che hai finito di parlare. Sono tornato, un attimino. No, dicevo, Natalino, Io sento meglio Valerio che a Gianni. Ciao Valerio, se mi ascolti. Sì, a basso sono, non posso alzare nulla. Se alzo anche col QRM mi senti, solo che mi sentono anche le TV del vicinato. Delinquente! Ehi, come ti vai? Non puoi salire, poi adesso è l'ora che si guardano la televisione, la gente. Eia, beh, quello è vero. Se alzo me ne vengono a rompermi le scatole, magari, capito? Oh, magari non succede niente, ma non voglio provare. Beh, hai ragione. Meglio evitare. Io stavo uscendo al minimo mio, adesso sono con 5 watt. Sono, capito? Non voglio salire, io sa che disturbo. Magari sali un po' più di watt e disturbi. Oh Valerio, ti mando la foto di questo apparecchietto. Ingrandiscila perché la zona delle manopole è buia. Ho detto, ti sto mandando le foto di questo baracchino. Se non vedi le manopole, ingrandisci la foto. Eia. Dunque Luca Del Monte, forse si è sentato. Luca Del Monte, anzi Luca Della Monta lo chiamiamo oggi, da d'ora in poi. Ma è chiuso, sì, c'è Luca che è al monte, zona Casetta in Canada. Sì, bene, avevamo già parlato, no? Tu sei talmente forte in radio che certe volte si può confondere la modulazione, meglio abbassare appena appena e essere più capibili. No, beh, adesso no, non ha cambiato più che, non è che abbia cambiato molto qua. Guarda, il secondo passaggio forse è un po' meno forte. Comunque sei sempre capibile da me, ricordati, da me sei sempre capibile. Però puoi lasciare anche il secondo passaggio. Va benissimo. Eia, guarda che ho mandato le foto, dagli un'occhiata. Eia, però scalda a bestia, scalda molto. Per cui gli ho messo una ventolina attaccata con l'elastico. Eia, questo l'ho scelto apposta. L'ho scelto apposta, me li sono studiati per mesi questi apparati e poi ho colpito. Allora, forse tu intendi l'Alan 58, l'Albrecht 5890, così è. Quello, come quello che aveva Tex, come quello che aveva il tuo compaesano, sì. Eia. Natalino, ci sei ancora? Aspita come becca i suoni. Oh, ma come si dice? Ah, porca miseria. Già ci sono comunque. Valerio, guarda un po'. Adesso ho tutto il braccio, ho il microfono tutto lontano, cioè ho teso il braccio. Praticamente il microfono è lontano un braccio dalla bocca e come vedi si sente lo stesso, è come che fosse amplificato. Mi sì, non cambia, guarda, 10 centimetri, 20 centimetri, 30 centimetri, lontano tutto il braccio. Ehi, amica, ti faccio parlare mamma. Mamma, saluta Valerio. Ciao Valerio, però non mi ricordo chi sei. Valerio D'Alghero. Valerio D'Alghero? Sì. Saluta. Ciao, sono Liu. Lei è dall'altra parte della stanza. Lei modulava dall'84 in poi, ha modulato anche alla Maddalena, Palau, tutta la gallura si è fatta. Lei ha insegnato alle medie in tutta la gallura, capito? Palau, Monti, Argiachena, tutta quella zona lì. Eia. Vediamo se è entrato Claudio. Claudio? Ui. No, te l'ho detto Natali che ho programmato due apparecchi a pomponi, infatti te l'ho già detto. Alla prima ha funzionato, proprio facilissimi da programmare, un giocattolo proprio. Due Baofeng 888, quelli che costano 19 euro l'uno. Oh, sono rientrato, capo è ancora qua. Ma non sei ancora partito, sono le 8:05. Ma io muovo di capovamine. segreteria, muoviti. Mi prendi, Marco? Via. Signori, è arrivata la pappa. Mi dispiace per voi, ma devo mangiare. Vi ascolto comunque, dai. C'è Natalino e Valerio. Ciao Marco. Sto mettendo il cavetto, il microfono normale qua. In questa radio, dai. Sì, ma è ad Alghero, perché qua che non la sento, eh. Assolutamente no. Quindi non è qua a Sassari. No, qua non arriva niente. Ciao Giuseppe. Qua non arriva. Sento Giuseppe, Santiago 7. Ma... non arriva. No, dopo l'edicola, quando fai la rotonda sali, dopo l'edicola, dove ci sono i secondi cassonetti della Mondetta, sali, già ti vedo io. Ma io muovi, ancora i due, Gese. Ecco. Va bene. Allora portati il telefonino e chiamami quando sei sotto. Sono da solo lì un'ora. Ma c'è il baracchino perché? Ma tra quanto prevede di essere qua per le 8:30? Come? Banco di Sardegna bisogna andare. Se c'è il Banco di Sardegna. Va bene, ok. Non ci crede lui. Lui c'ha le radio buone ma usa quelle che non servono. Ecco. Perché non lo so, sto usando il microfono normale, non lo so, la cosa sta usando il 440, capito? Avanti break. Eita, buonasera Claudio, buonasera Valerio, per ascoltarti. Avanti a te ancora Claudio e fai girare. Ok, ciao Fra, buonasera, ben sentito, ben ascoltato. C'è Valerio, poi gli altri non so se sono andati a mangiare, Io sto aspettando a Capri2 che deve scendere a Sassari se deve tirare una radio. Grazie, l'ho sentito, stiamo avendo una festa, va bene. Ciao Valerio. No, le devi mettere la colla, non lo devi toccare perché io non ti ho mai detto niente, ma stavi uscendo male, troppo ecco, così è perfetta. No, te l'ho detto, come Mickey Gay, come ecco, la radio adesso è regolata bene, prima no, prima era troppo forte. A volte anche incomprensibile, capito? Quindi adesso è regolata bene. Vai Fra. A volte va a strappare, prima a volte andava a strappare, mentre adesso è chiara, nella pulita la radio, e va benissimo così. Così ottimo, il passaggio che hai fatto prima non andava bene. Non è un problema, no? È un bel casino, che diverso. Tutte le scatole, sì, problemi. No, io già non mi ho, però sono rotture di scatto, credetemi che sono rotture di scatto. Non so, vabbè. Va bene che va bene, avanti Fra. Che vuoi, un bello verdino. Diciamo che c'è gente che ti dice che gli disturbi perché vedono solo la penna, c'è di quella gente lì, però diciamo che io non penso di non farne perché sono tirata su molto in alto l'antenna e più non ha parlato nessuno, vuol dire che non mi ha detto mai niente nessuno, è evidente che non gli faccio niente, non gli faccio, però diciamo che ho messo un capo come si deve, ho messo l'antenna nuova e ho visto che si guai è zero. 0-0, ma anche da me non disturbo niente. Ok, qua, avanti. E così adesso, io non ho mai disturbato, sono arrivato qua nell'85, 84-85, avevo un'antenna di fortuna, allora le televisioni erano quello che erano, qualche righetta, ma poi come ho cambiato l'antenna nuova, per la testa che ho, difficile capire. Io mi ricordo, nel 90 ero a Cosa, a Torino ero, sono andato a farmi un po' di figli, ed era il periodo che c'era il mondiale, sì, di calcio, e io ero a Torino su, e qua mi hanno chiamato i carabinieri, gli stavo disturbando la televisione, sono saliti, non mi hanno trovato i carabinieri, e sono andati con la mia suocera, e gli ha detto mia suocera che eravamo a Torino, eravamo lì così, dice, e come fa a disturbare allora se non c'è il signore? E loro intanto hanno chiamato i carabinieri, solo per l'antenna, per parcheggio, me l'hanno detto, mi hanno chiamato i carabinieri, mi hanno chiamato qua per parlare, tutto qua. Ho preso, quindi io sento l'antenna e ci ho messo un bucolo. E gli ho messo 300 watt, gli ho messo, e gliela facevo bene alla televisione, cioè, come non c'è l'antenna, ho messo tutto il mondo di nuovo elettrico, abituale. È impossibile, bisogna farvi comprendere la gente, hai capito? Perché se non lo capiscono fa, poi è un casino. Basta che fai che hai una gaggata, subito lo baracchino. Ah, vai, picchetti, vai. Adesso arrivo alle 10 di notte, mi Gianni. Non li affaula, no, già veloce, maledizione, già cammina in macchina, abituato a muoversi un attimo dal traffico, lui che fa lo scolaretto, capito? Allora, non mi sembra vero, almeno me l'ha tolto a mezzo alle balle, sta radio. L'avevo già attaccata, provata e staccata e l'ho messa dall'altra parte dove ci sono gli altri radio, capito? Però stava iniziando a ingombrare. Quindi meglio così. Almeno, a me quando la roba non è mia inizia a stare troppo a casa, capito vale? È un mezzo problema. E quindi meglio così, almeno sono libero. E chi era? Non si dice chi era, si dice il peccato ma non il peccatore, me l'hanno fatta a vendere. Io ho fatto il mio dovere, capito? Ma adesso l'ha voluta Gianni, ma ne avevo già 3 o 4, dovevano venire a vedere, adesso le mando messaggi che la radio è già venduta, voglio per loro. Sì, è bella lo stesso, non ti fare problemi, è bella lo stesso. Ciao Franco, mi copi? Cazzo che ti copio. Ciao Valerio, buona cena, buon tutto. Sì, ti ascolto, ciao Franco, mi hai ascoltato. Ehi, questo è un altro baracchinetto, che c'è un po' più di watt in AM, dai. Va bene. Avvisa Claudio quando arriva a me. Perché? Così. No, così dico, quando ti senti alla radio lo sappiamo, no? Ah, vabbè, metto 8:30, sono 8:20, fra un po' scendo. Vediamo, riprendi fra. Ehi, capa, riprendi e vi lascio perché io devo andare a trapattare, devo andare a prepararmi, devo andare al lavoro. Va bene, dai, ciao Claudio. Ho dato 2 minuti tanto per farmi la chiacchiera e poi salutarci. Niente. Ciao Claudio, ciao Marco, ce la riascoltiamo, dai. Alle prossime. Mi chiedi Marco. Ehi, ciao Franco, alle prossime, buon lavoro, buon tutto. Natalino. Ciao fra, tante belle cose, ci riascoltiamo con calma, buon trabacco. Alle prossime, stavamo anche una pulita qua, vicino a profitto, di questa dibugata di Ferradio. Va bene, ciao fra, le prossime. Natalino. Claudio, io credo che prima dicessi buona, ottima, dice come la radio d'aspetto. Adesso si sento abbastanza presentabile. Mi credo dicessi buona, ottima, abbastanza presentabile, dai. Va bene, se va bene a lui va bene a tutti. Non è roba mia, io della mia dico ottima, questa è presentabile. Però sentiamo anche. Era prezzo di un baracchino, lo sto dicendo, presentabile e funzionante, era prezzo di un baracchino, a me non mi serve, sono proprio la collezione, ma è veramente un affare. Oh, vabbè, se è un buon prezzo, meglio per Gianni, dai. Solo che sta sempre comprando radio. È possibile che non si stabilizzi con 2-3 radio ottime, buone, invece di stare sempre a comprare 14. Io non come ti ho visto, già che ti ho detto. Non lo posso dire, culino, se mi piace di radio, neanche io così tempo fa Marco, stavo sempre comprando e mettendo lì, capito? A fare che cosa? A fare niente. Adesso io ho le mie, ho la serie 430 e 440 per quanto riguarda il baracchino e tutte le altre che già lo sai cosa c'ho, la foto già l'ho tolta da correzzetta.com perché non mi interessa più, ma chi l'ha vista già lo sa che cosa c'ho io, quindi no, un attimo. non sono indietro a nessuno, però non spendo più soldi a quelli veli come facevo prima, capito? Perché non serve più a niente, no? Cosa mi fai? Lo so, ma anch'io mi sono fermato nei baracchini, anzi certi li ho dati via, ho venduti, ho regalati. Basta. Dico così, poi appena esce un baracchino nuovo, bello. Già mi conosci, no? Vabbè, speriamo di no. Sì, ma Marco, ma io non ho niente da criticarti, sei appassionato come me, come tanti altri, e sono investimenti che possono andare bene e possono andare male, alla fine però quando è troppo è troppo. Io sono arrivato ad averne 4 di serie diverse della Kenwood, capito? Quindi tutta la serie, 140, 180, 430 e 440, e alla fine non sapevo più quali usare, e quindi ho deciso, ma cazzo, mi tengo un 430, un 440 e il resto li vendo tutti, e così ho fatto. Ma radio nuovo, veramente nuovo, guarda quello che c'è Valerio, è impeccabile, nuovissimo, capito? Se dai le cose le dai perché sai che le puoi dare a posto, se puoi le vedare per farle fuori e dai mondezza, allora te la abbigli come le possa, ma come dice Natalino, capito? Eia. Ascolta, ma prima del 140 della Kenwood cosa esisteva? Il 130 e il 120, stadio finale a valvole, come nella serie 4 c'era il... cioè del 4 niente della serie 4, della serie 1 invece c'era prima il 120, poi ho fatto il 130, poi il 140. Ok, della serie 9 hanno fatto il 920, 930, 940, che io li ho avute, lo dicevo perché le ho avute tutte, io sono kenwoodiano proprio. Poi della serie 8 hanno fatto l'820, l'830, l'850, non soltanto l'840. Ah, non lo sapevo, adesso me li guardo. Il 130 e il 120, il Kenwood, io voglio vedere come erano fatti. Belle radio, bellissime radio, decametriche, però molto belle, capito? Già il 130 era mezzo decametrico, era un po' più a sintonia continua, però gli altri erano bellissimi. Tutte con lo taglio finale a valvola, transistorizzate, però con lo taglio finale a valvola, quindi preselettore, preaccordo, e anche lì dovevi stare attento perché se facevi male il percorso, scusa che l'ho girato, che proprio la valvola della praticamente come il prefinale, diciamo, la valvola di preaccordo. Eia. Eccolo là, mi aspetta, mi sta apparendo. Marcoli, dai, aspetta che scendo, vuoi fare scala di ciocca e arriva subito, dai, scendo a vedere se è arrivato, ok? Sentiamo dopo? Sì, dovrei esserci, eccolo qua, l'ho visto, ho visto le foto. Interessante, dai. Bellini, dai, ci aveva il frequencimetro e anche una scaletta nel VFO, una scalettina graduata, dai. Va bene, a dopo, dai, vai pure. Sì, quella è la scala meccanica praticamente della banda decametrica, capito? Ok, va bene, dai, vado a vedere se c'è Gianni sotto, così poi risalgo subito. Ci sentiamo dopo, Marco. Via, ciao, a dopo. Sono rientrato. Uli. Stai mangiando? Mangia tranquillo, mi sto spogliando. Io non ero ancora soddisfatto, mi sono preso appena le Nutella con le fette biscottate. E beh, venduto? Sì, perfetto. No, non ho altre cose da dare, anche c'ho del microfono 80-85, ho un commutatore d'antenna. Serve niente, c'ho tutto, se no sto facendo un pacchetto. E ho già venduto un po' di roba, già un bel po' di soldini si è fatto, Eia. Come ti dicevo prima, ho visto il 130, anche il 120, ma molto simile. Infatti non ho capito bene cosa cambi. Bellino, credevo che avesse addirittura la scala solo analogica, invece c'era già frequencimetro, eccetera. e ho notato anche che aveva solo la SSB, cioè non c'era né la M e né l'FM, capito? Solo banda laterale. E addirittura mi sembrava unica, banda laterale unica, non lo so, ho visto solo sulla manopola SSB. Allora, se non vorrei sbagliare, ma la differenza tra il 120 e il 130 è come il 680 e il 140, una cosa del genere, praticamente. Il 130 ha una banda in più, adesso non so se hai 160 metri o gli 80 metri in più, non me lo ricordo, ma sono passati tantissimi anni, però se lo inquadri bene, che vai a vedere sul selettore di banda, ok, ti accorgi la differenza tra uno e l'altro se li metti vicino, se hai la possibilità di metterli vicino, te ne accorgi quella differenza. Mi sembra che il 130 abbia la banda di 160 metri o le bande VARC, e il 120 non ce li aveva, perché sono tutte e due decametrici, capito? C'è il frequentimetro, ma sono decametrici. Ah, le bande VARC, sì. Allora, mi pare di aver notato che tutte e due partono dagli 80 metri, 3,5 MHz. E poi col computer, cioè non con lo smartphone, col computer portatile già lo controllo dopo, dai. Mi metto vicini e vedo le differenze. Ma è carino, ho visto una presa microfonica a 4 poli addirittura. Non so se è originale, 4 poli, il bar è un baracchino. E poi ho visto anche un accordatore da stazione proprio del 130, del primo del 130, il suo accordatore di stazione manuale. La T130, che è prima della T230, io ho la T230. Ok, sempre trio Kenwood, quelli sono trio Kenwood, però c'è l'alberino prima della Kenwood scritta. Capito? Io ho la linea del quella lì, dove ho la T230, che praticamente è la T130 è l'accordatore 120 della serie 1, ok? Quindi dal 120 e dal 130 manuale, perché poi è uscito la T250 che si abbinava al 680 e al 140 e al 430, che non hanno l'accordatore. Il 440 poi è nato con l'accordatore. Ti stavo dicendo, la T130 è della linea 120 e 130 come radio. La T230, quello che c'ho io, è della linea 930, ok? 930, prima del 940. Eia, poi l'ho visto aperto, c'era uno aperto, sulla destra ho visto la zona valvole, almeno mi è sembrata quella, la zona valvole. Eia. E dietro c'è scritto trio, dietro sul retro, trio. E mi ricordo che in quel catalogo che mi aveva dato Mario negli anni 80, prima di Trio Kenwood, ne avevamo già parlato, si chiamava addirittura Trio Sofrador, ti ricordi? Trio Sofrador, scritto Sofradore. Esatto, guarda, sto mandando la foto della T230, ok? Che è un po' più grande della T230. Eia, ce l'ho là il telefono però, la guardo dopo. Ok, tu l'importante è che me la mandi, poi già lo vedo. Ok, adesso ti mando la foto. Il tema della linea, che è sempre della linea anche 780, ok? Che è abbinato, vedi? Ti sto mandando, eccola qua. Tutte e due te le sto mandando. Della T230 e della linea dell'abbinamento. Eia. Poi mi ricordo anche che la Kenwood produceva, mi pare fosse un HF più 50 MHz, perché era piccolo, sembrava un veicolare, anzi era un veicolare, però non mi ricordo la sigla, l'ho vista l'altro giorno ma non me la ricordo, display a cristalli liquidi, non so se è presente. Mi pare di sì, non vorrei sbagliare, ma mi pare di sì. Ehi dai, quando lo trovo già te lo dico, dai. Un bel apparecchietto era, dai. bel apparecchietto, chiaramente veicolare per via delle dimensioni, sembrava una specie di autoradio. Eia. Bene, bene, comunque buona la, caspita, la Nutella, veramente buona, con le fette biscottate tonde, quelle di Eurospin, a parte che sono fette biscottate buone, buone proprio, e sono tonde, no? Mentre quelle che prende mamma a caso, no, da Loriga, sono quelle quadrate, insomma rettangolari, però sono cartonose, sono proprio di cartone, di non sono buone fette biscottate. Guarda, Lidl ha ottimi prodotti, tutto ciò che compri è buono. E noi infatti andiamo molto lì, più di Eurospin ce ne ho meno, Lidl poi vende tante cose utili, tipo quelle batterie ricaricabili mie, qua oggi stavano vendendo, mi pare, o la prossima settimana, la base per il trapo a una colonna, 19,90€, 20€, per dire, no, c'erano tempi in cui era molto ricercata da noi il trapo a una colonna. Quando avevamo 14-15 anni, non ti dico per cosa. Lo so. Comunque, belle radio, no, quelle, eh? Io con l'8,30 andavo anche in 27. Andavo in 27, non mi copriva tutto della 27, però sino a 40 ci arrivavo. E funzionava molto bene. Lo usavo con l'MC50. MC50 lo usavo, chiaramente non era a questi livelli, però con la mia potenza di corde vocali riuscivo a farlo andare bene. Sì, dovrei avere anche delle foto, oltre 20, oltre 30, andavo con la linea Uniden del 2010, ho avuto la linea Uniden 2010, proprio linea completa, andavo con la linea Drake, prima la 4B, poi la 4C, avevo comprato, e andavo col 101 ZD, e ho usato il 102 che era sempre a stadio finale a valvola, però molto più selettivo, quindi con frequenzimetro, insomma c'era un po' di tante cose, molto bello il 102. E valvolare ne ho avuto tanto, con lo stadio finale a valvola ne ho avuto tante di radio, ma non ero manco radioamatore ancora, figurati, sto parlando degli anni 90, 89, 88, 89, 90, poi nel 93 avevo preso la patente, quindi insomma sono andato un po' più su, però belle radio, Caterpillar funzionano alla grande. Poi non parliamo della ricezione perché è favolosa, ancora oggi quelle radio sono favolose in ricezione, No. Magari anche più silenziosi del 140, non hanno niente a che fare. Io il 140 l'ho avuto, quindi non è che posso dire diversamente. Il 140 e il C80 sono per me baracchini a sintonia continua, sono dei baracchini che puoi usare solo come baracchino, basta. Un radioamatore non si permetterebbe mai di fare attività radioartistica con un 140, con un C80, perché sono talmente rumorosi, non hanno filtro, non hanno niente, che non servono a niente perché fa attività amatoriale a livello di Marco, di Walter, faccio anche noi, perché sono dei video radioamatori. Capito? A me non mi interesserebbe niente farlo perché non sono ai loro livelli, ma hanno necessità, chi fa di eccessive veramente a livello mondiale come loro, avere delle radio talmente sofisticate, talmente precise, soprattutto digitali in tutto il senso, per fare veramente attività, perché se c'è un segnalino piccolo con un digitale, con una radio di alto livello, vai a rilevarlo. Con un 140 o 180 dove cazzo vuoi andare? Ma anche con un 440, con un 430, però rispetto al C80 e al 140 sono molto più silenziosi e selettivi, perché il 440 è completo, perlomeno il mio è completo di tutti i filtri, anche quello SSB, quindi riesci a stringere leggermente, riesci un po' a regolare eccetera, ma dove vuoi andare? Il 440 va nuda, ma l'NB che non si via nuda è buco, cosa va? Il 430 lo stesso, cioè i filtri SSB e quindi è molto molto selettiva come radio. Vantano molto per la selettività, proprio per la recezione, che rispetto al 440 è molto più selettiva, molto più silenziosa. Ma pensa che all'epoca bisognava usare quello che c'era, Io mi ricordo, questo anche prima dell'84, in edicola si volevano quelle riviste di elettronica, di radio, e io quando vedevo sulle figure, sulla copertina, no, le radio dell'epoca, radio amatoriali, sia IESU sia ICOM, soprattutto IESU vedevo, io sbavavo, nella foto sembrava leggermente verdolina la radio, magari era grigia, io sbavavo quando vedevo quelle apparecchiature, lo sai, e dico chissà cosa fanno, cosa ti permettono di fare, e poi abbiamo iniziato con i baracchini portatili. Però come hai notato che quel progetto di provare a pigliare la patente poi è svanito, no? Ha avuto un calo di interessi, ma non solo di quello, anche di altre cose, sono molto sempre giù, sempre... E così, dai, è un periodo un po' così, dai, già passerà. Sì, Marco, tutto passa. Purtroppo nella vita ci sono alti e bassi, capito? Ci sono alti e bassi che vanno presi così, senza cercare di farci venire brutte idee, farci venire esaurimento, è così. Sono giornate buone, giornate cattive, giornate che si allegra, giornate che si è un po' giù, anche se non hai problemi, è l'umore che sale e scende, e quindi bisogna cercare insomma un po' di convivere con queste cose, è normale. No, ma guarda che a me capita spesso, Marco, di avere per dire il 4.40 o il 4.30 acceso, non c'è nessuno, giro e per dire me ne vado ad ascoltare in 40 metri con la stessa radio. Quando lo sente 40 metri me ne udisce il filo. Allora, rimetto il 27 e mi accendo il 756 più 2, mi accendo via ESO perché sono digitali, un altro pianeta, completamente un altro pianeta. Lì si sente un casino, frusci, rumori, di tutto e di più. Lì vai a accendere la radio, è come che stai ascoltando Radio Monte Carlo, capito? C'è una differenza enorme, eppure io ce li ho le radio digitali e radio di ultima generazione. Cosa fai? Non le accendi? Le accendi se vuoi ascoltare bene, se poi vuoi, ma non c'è nessuno che mi metto ad ascoltare in 40 metri, e ascolti lo stesso, però non a quei livelli, capito? Guarda, io mi ricordo che il 140 l'avevo portato in macchina a San Francesco con antenna tarata da macchina per ascoltare ed era rumoroso, leggermente rumoroso anche con l'antenna da macchina, mentre con l'857 con l'antenna da macchina non senti nulla, è silenziosissimo e tira fuori perfettamente le stazioni. Sai quante volte l'ho portato senza microfono mio? Senza microfono lo portavo per non far vedere che trasmetteva. Riceveva perfettamente 40 metri, 20 metri, sai, io andavo di mattina, quindi gli 80 metri magari non li ascoltavo perché non c'era traffico. Ma era un bijou l'857 per ascoltare. E c'è appunto, poi a parlare in 27 col Kenwood in macchina non ne parliamo. Nonostante l'antenna tarata e tutto, per la 27, un rientro terrificante di RF, facevo questo rumoraccio, ho detto babà, ho detto qua devo smettere perché sennò brucio tutto. Sai dove l'avevo provato quella volta per parlare con voi in 27? Proprio ero a Bancali, al solito posto, proprio soffrivo anche di rientri, mentre l'857 era proprio fatto per la macchina, quindi potevi mettere tutta manetta, non aveva problema di sorta a trasmettere, sia in 27 sia in altre parti. Poi chissà, gli apparati proprio gli ultimissimi usciti avranno filtri di ultima generazione, insomma tecnologie particolari. chissà perché sono sempre per i veicolari comunque. Per esempio Carino, l'FT 991, Iaesu, che... Oh, poi a me piace la marca Iaesu, non lo so perché mi piacciono tutte le cose di Iaesu, i portatili, i ricevitori, tipo quello da Natalino, i veicolari, mi piacciono, ho capito. Mi piace la forma, mi piace come sono fatti. E vabbè, insomma, ha sostituito il 991, ha sostituito l'897, quello che aveva Vittorio in macchina praticamente sul furgone. C'ha il display a colori per far vedere tutta la banda passante, no? Per vedere i segnali. È carino. Solo che questi apparecchi di adesso, Claudio, vanno tutti aggiornati via software, no? Ogni tanto c'è un aggiornamento che ti risolve un bug o roba del genere, no? Però chissà perché potrebbe introdurre altri bug o dare altri problemi. Infatti mi pare, non so, non so cosa è successo. Si è cambiato il canale. No, ti dà il timeout timer, cioè se moduli per troppo tempo stacca la portante. E dicevo, aspetta, ma poi c'è il filo adesso, Mati. Stavo parlando di Iaesu, ma guarda che io sono arrivato in ritardo perché pensavo ce l'avessi ancora, poi ho sentito che l'hai dato Antonello e quindi non pazienza. Però te l'avrei preso io quel quadribanda, anche se non lo usavo, magari mi serviva, qualche volta l'avrei usato, capito? E te l'avrei preso io, però sono contento che ce l'abbia Antonello, la stessa cosa. Sì, già Antonello è pronto, soldi alla mano, dice io, mi serve, scendimi il tuo apparato, per dire. Cosa stiamo dicendo? Che hanno bisogno questi apparati nuovissimi di aggiornamenti software, no? Però un venditore, mi pare che sia Media Globe, qui lo dico, qui lo nego, ha detto che loro non rispondono di danni dovuti a aggiornamenti software. Capito? Magari per risolvere un bug, aspetta che mollo, riprendo. Ecco, per risolvere un bug tu puoi fare l'aggiornamento, no? Però questo aggiornamento può darti problemi di altro tipo, così come faceva con i lettori di Wix. Facevi aggiornamenti e ti sbagazzava mezzo apparecchio, no? E quindi questa ditta ha scritto che non rispondono di danni dovuti a aggiornamenti software. Come dire, se lo compri te lo devi tenere così, se no non te lo garantisco, non capito? Addirittura, allora te le cose. Sono belle tutti, ho fatto una grandissima esperienza, soprattutto sulle decche metriche. Usavo la linea Drake, non ho mai bruciato una valvola, facevo l'accordo alla perfezione. Anche sul 102 lo usavo in 27, 101 ZD, quella serie lì del 120-130, il 930, e poi sono salito più su, avevo preso 940, che era nuovo praticamente, sempre da Mario Lontari. Mario Lontari era da Dinamo, vero, in quegli anni, che si succede che gli ho fatto, per carità. Solo il TL922 che avevo comprato, mi sembra che era intorno ai 4 milioni, 3 milioni 800 mila lire, per carità di Dio, se gli vado a pensarci oggi, cazzo me ne taglio le balle. Certo, tu pensa a quello che hai comprato tu e quello che hanno comprato gli altri. Io dico che Mario si è fatto d'oro solo con i Kenwood, sia portatili, sia veicolari, sia base, si è fatto d'oro. Nel periodo che erano appena uscite con la radio, capito? Io il primo 430 lo comprai da lui, poi mi ha telefonato, sai che hanno fatto il 440, ho detto no, non me lo dire, e com'è? Bellissimo, accordato all'interno, 100 memorie, ho detto guarda, prendo a vederlo, me lo ritiri il 430, certo, oh, mi ha ritirato il 430, mi sono comprato il 440. Mamma mia, per carità di Dio, due di là, 2 milioni e 700 rotti mila lire. E poi lui invogliava a comprare, no? Sapeva convincerti. E beh, io qui l'epoca è stata una pazzia, anche perché non me ne facevo niente, non esisteva il PML dove parlare. Avevo preso, te l'avevo già detto, il TH75, no, portatile, VEU, 750.000 lire, e in più i subtoni erano opzionali, te le immagini, se uno voleva i subtoni li doveva prendere opzionali, infatti subito dopo resomi conto della follia, glielo ho versato, ho detto, cioè lo metti a vendere. Mettilo a vendere, certo togliamo una certa cifra, no, magari o 50 o 100 mila lire, non mi ricordo quant'era, insomma subito dopo l'ho rivenduto, là, mi sono rifatto, perché lì non c'era nessuno con cui parlare, cioè è proprio una follia gratuita, è stata, dai. E come dicevo io, adesso con 30 euro hai la radio che ha le stesse caratteristiche, anzi di più, perché già il Baofeng ha i toni analogici e digitali, già di serie, capito? Non devi mettere moduli opzionali. E vabbè, dai. Comunque c'è una sensibilità fuori dal comune, quel portatile. Aspetta, se no mi scatta la portante. Ecco. Avevo una sensibilità di 0,16 microvolt per quei famosi 12 dB SINAD o come si chiamano, 0,16 microvolt, mentre gli apparecchi, i Baofeng sono 0,25 microvolt mi pare, o 0,20, una cosa del genere, quello era 0,16, aveva una sensibilità proprio fuori dal comune. E beh, per dal fondo era Kenwood. Avevo comprato il TH77 da lui lo stesso, portatile era favoloso. Poi è uscito il TH78, quello a sportellino scorrevole, col microfonino suo, Isoni a Goduria, questi portati, ma ce li avevamo quasi tutti gli animatori. Eravamo sempre tutti lì, da Mario. Mamma mia, c'era un traffico allucinante. E ti chiamava sempre, guarda che è uscito qui, guarda che scorre. Allora lavoravo con i miei suoceri, quindi i soldi, no, non ce n'era problema, aprivo il cassetto, le persone partivo. Era una cosa, mamma mia, guarda, era buttati un bene, se vado a pensarci oggi, guai. Era una cosa pazzesca. Quando è uscito il TH22, con due maniglie, in due l'abbiamo dovuto salire a casa, l'abitavo a nuovo piano. Come l'ho attaccato, boom, ho scattato il contattore, picchia, che cos'è questa cosa? Subito non potevo usarlo. Allora ho chiamato bene, perché c'era la buona Tinoidi, il poverino è morto l'anno scorso. Ho fatto mettere assieme, che si occupava proprio di queste cose. E poi io ho un problema, ho detto, oh, va bene, c'è un'aggiunta, vieni qua, facciamo la richiesta. Sono andato e mi avevo messo 4 kW c'ho qua, perché 3, perché con l'amplificatore lo stesso e ti scatta se c'è tanta roba attaccata, capito? E quindi avevo messo 4 kW, ne avevo duri, sempre attaccato, Sassari in via nei Golfi a Porto Torres. Immagina, sfratteravo Giampaolo, io sul 10, e loro sul 12, Giampaolo mi sentiva di sfrattare a Porto Torres. Roba da matti, guarda. Ma poi all'epoca le guerre che c'erano, chi arrivava più lontano, no, quando sentiva una località remota della Sardegna, no, rispetto a Sassari, erano i soliti, Marco, Walter, Vittorio, a chi arrivava più lontano, capito? E proprio c'erano queste sfide a suon di watt, anzi di kilowatt. Marco chi? No. Faceva le gare la notte con Bidacci della famiglia Vittorio Vatto, non c'era una nota di persone che potevano competere, lui a saperlo. Erano grandi lotte, se no con Muzzi, Torre dei Muzzi a Vittorio, adesso che scendevamo, minchia, le cornacchie ne scendevano dagli alberi, Madonna, ma io prima di avere il TH22 c'avevo un Jumbo Aristocrat da 1 kW che proprio ho venduto la buona mai Bartolomeo TGL. Ma ho bruciato più valvole io che Fusaro, alla fine era vivo Vittorio Fusaro, Vabbè, ti ascolta, te li ordino una scatola e te la tengo solo per te, perché ogni settimana andavo lì, dammi due valvole che le ho crepate, via, dammi due valvole, sempre così da lì. Ehi, ehi, il Giambo Aristocrat, ma che era della CTM mi pare, ma non era il Galaxy 1000 che aveva 1000 watt? Giambo Aristocrat non ce l'ho presente, cioè il nome lo conosco, ma io mi ricordavo che della CTM solo il Galaxy 1000 aveva roba di 800-1000 watt in AM. E ci sarebbe che Giambo Aristocrat, ne hanno fatto due serie, io facevo quello grosso che era simile al Galaxy 1000, ma qua lascia perdere. Era una cosa, Lucia, no, non ce l'aveva 1000, io poi avevo cercato di tirarlo a Carlo CH23 Chiaramonti, faceva anche queste modifiche, queste cose, mi aveva aumentato la tensione anodica e mi aveva modificato le valvole, c'erano due valvole un pochino più grosse, quindi dava intorno ai 650-700 modulati, ma via sono tanti da qua su, micro la potenza, da qua in alto, sto dicendo che era una lotta per la sopravvivenza. E poi gli dico, beh, adesso vi faccio ballare la samba. Pronti? Come c'è il piede 922? Santa Maria Maderosa, abbinato al 440, quindi la sua radio. A relè, non più a valvole, dici, 2i, ma che 3500 Z. Ma basinati di luci che prendevo. Basinati di luci. Io quando arrivavo alla luce non dicevo mai quant'era mia moglie. E mi sembra che sia boh 150 era lì, così, una cosa del genere. Sì, 320, 340 mila lire, 350 mila lire. La differenza la devo sempre mettere io, se no se ne accorgeva. Cisci. Ma poi il bello che con i baracchini di allora, come premevate queste portanti da la centinaia di watt, facevate battimento zero a tutti. Eravate dei delinquenti, guarda. Delinquenti era a dire poco. Il problema è che a Sassari c'erano solo baracchini. C'aveva questa radio, eravamo ma manco Vittorio mi sembra che non ce l'avesse la radio così. Vittorio mi sembra che avesse un LMS 200, anche lui con un lineare grosso. E c'era questa radio, avevamo il Walter. E poi ce l'aveva comprato il 430 ma questo è il 31. Quindi tu immagini, io con questa radio che non prendevo colpi a nessuno, allora se tu fai il giro di Carmoazzi, da Via Umana, dietro qua, ci sono ancora tre antenne, ci hanno venduto tutto, Maniera, che ci vediamo ogni tanto, che abita qua, si è sposata, c'ha bambini eccetera, ma dillo a Antonello Pomponio che l'ha conosciuto, un bellissimo ragazzo, ci ha venduto tutto, perché lì c'aveva il baracchino, capito? Quindi immaginati tu, e loro parlavano sul 20, io parlavo sul 10, sul 14 con Antonello, sì adesso vengo, Antonello quando abitava a Rizzedo, un altro delinquente con lo Iaeso FT250, era una cosa pazzesca, bei tempi, non li rimpiango, ci divertivamo un bel, però era un delinquente. Se ti stressero mi sentivo la buona magia pausa per 8 ore, se ti splatter, era allucinante, ma ce n'era potenza, io 22, se erogavo 800 erano 800, non ve non dava lui, col cavo che c'era allora, te lo ricordi, RG213, un agavo grosso, c'aveva che scelgo, baracchino c'aveva, sì ma cosa c'aveva il baracchino, io non me lo ricordo, Roberto Crescenco che aveva il baracchino, mi ricordo, però che mi potesse dare fastidio non ce n'era, non mi ricordo Giuseppe, che faceva le lotte con noi, noi eravamo i 27, noi eravamo i 27 e ci divertivamo parecchio, ma parecchio. Va bene, Marco lì, io chiudo perché è pronta la cena, perché sono un po' la sera lasciata andare, perché è sceso già, mi stavo mettendo un po' a posto qua, eccetera. E quindi ho fatto tabla, io ancora non ho cenato. Quindi ti lascio, se ci sei a dopo, altrimenti ci sentiamo domani. Ciao anche a te Giuseppe, noi ci vediamo poi domenica mattina. Salgo con Massimiliano, metterti a posto quella roba, ok? Dai. C'è qualcuno che ogni tanto schiaccia il PTT nel canale 1, o Marco, non ho capito chi è, se vuole parlare può anche parlare. funzionato perfettamente, il baracchino dietro è gelido, l'ha raffreddato perfettamente, se no a quest'ora sarebbe fuso, scalda parecchio. Bene, buona serata Claudio, buona cena, buon tutto, idem compattate per Giuseppe D'Alghero, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Marco, ciao Giuseppe. Ciao.